Ma boh, Salla quindi non c'è per internet o... Boh. Salla non ha detto semplicemente che non c'è. Ma lo salutiamo, come salutiamo Jimmy? Tra pochi secondi. Ah, perché è il suo compleanno. Ma non è un tuo amico Catta, perché non compie anni sabato. Comunque, bentornati in diretta con The Tigers and Dragons. E ricordandoci, dovvi... che ci potete seguire sui canali social di Tycoon and Dragons. Non vedermi in diretta mi mette ansia. Guarda che sul cellulare. Sì, infatti, per forza, sono obbligato. Giocheremo ovviamente alla maledizione di Catta con Dungeons versione 5.0. Questo è il 13° episodio. E con me Andrea Giacometti da Bologna abbiamo Stefano Gamberoni, Luca Lazzarini che torna con noi. Dove? Qui. E Giulio Bosi e ovviamente il master Enrico Cattabriga in attesa di Francesco Arcischiacolo di Francesco Arcischiacolo e salutiamo Edoardo Saladini, che intro è scritto per la diretta, il testo di una canzone. E salutiamo anche Stefano Gamberoni che ci guarda in diretta. Ciao Stefano. Ciao Stefano. Anche io vado adesso, ci guardo in diretta. Grande, allora avevamo deciso che il riassunto lo faceva Giulio, giusto? No. Mi sto salutando. Che bello, momenti emozionanti. E oggi parlerò solo come Pingu. A posto. Ma c'era l'ultimo? Sì. Sì. Oh, allora fai te il riassunto e guarda la partita. No. Intanto con una grande sigla. No, voglio essere la chi. No, no, è che non interessa la partita, fai il riassunto. Ah, non c'era l'ultima volta. Fallo lo stesso. Perché è il 13° episodio. Così è anche bellissima. La sangue è una cosa. Quando vieni in palestra lui mette questa fissa. E la prendi sulla palestra fissa. Fortuna che ne è poco, intendi quello? Salutiamo Gianni Morandi e figlio. Sì, però fai il riassunto. Vai. No. Catta, è il tuo momento, tocca a te. Lo fai per l'ultima volta. Vabbè, lo farò io. Bravo. Shen è morto. No. Shen è morto. No, non è mio. Io sono diventato morto, però, bordi delle strade. Certo, no, purtroppo no. Io sono diventato generale di strad. No, anche questo purtroppo non è vero. Quasi. Però potrebbe essere. È arrivato Conte Strada. Il Conte Strada è arrivato, mentre noi. Arzi c'era. Sì. Però è stato contento. In realtà stava per convincere tutti noi a seguirlo. È vero che lo sarà taglio l'ultimo. L'ho salvata, sì, era con l'ispirito. Sì, è vero, hai fatto un numero. Salvata, punti di vista. Catta era lì che già pregustava, esatto, la fine. Ha detto, vabbè, fine. Avremmo continuato con i seguaci di Conte Strada. Avremmo continuato la campagna un'altra volta. Beh, io sarei morto, però. No, ti saresti convertito. E perché sarebbe vabbè, in pratica è arrivato Strad, che ha detto, oh, avete fatto un ottimo lavoro, grazie. Siete stati molto bravi. Ah, adesso mi portate domattina Irina al castello. Vi sto per mandare una carrozza. No, prima la voleva consegnata sul posto. Consegnatemi Irina. Ma lui, abile diplomatico. Scusa, ma si è invitato al matrimonio. Abile, sì, ma lui la voleva portare subito. Lui la voleva subito. Con una grandissima prova di diplomazia l'ha convinto a prendere tempo per prepararla al meglio e quindi l'ha convinto a lasciare che lo si vede, non si deve vedere la sposa, cioè con la sfortuna vedere la sposa, esatto, ha detto questo e quindi ci manda una carrozza e noi domani a mezzogiorno dovremmo essere là, quindi in teoria secondo i tempi dovremmo partire praticamente appena arriva la carrozza, quindi non abbiamo preso così tanto tempo perché lui ci invita al matrimonio, siamo invitati al matrimonio di lui e Irina. Anche lui è molto contento di quello che abbiamo fatto fino adesso. Grazie per farmi vedere anche il video, è bello il video. In teoria ci ricompenserebbe anche. Con cosa? Non so, non ci ha detto. Però il paladino, improvvisamente, dopo aver sterminato la famiglia del barone, ha deciso che doveva tornare il paladino. Quindi, no, Irina non possiamo consegnarla. 184.000. Tra l'altro, il nostro obiettivo dovrebbe essere uccidere Strad. Irina, chi se ne frega? Cioè, se noi ce ne andiamo via con Irina, diciamo, Strad, siamo tuoi nemici. E dopo col cazzo che. Vabbè, comunque. Cioè, ma le opzioni erano o la più estrema era consegnarle Irina per prendere tempo noi per prepararci a combattere Strad. Perché sappiamo che c'è un tempio sulle montagne. Che è tipo la sede dei poteri oscuri, che sono quelli che hanno messo Strad al suo posto. Quindi in teoria a questo tempio c'è il segreto per sconfiggere Strand o per prendere il suo ovviamente posto. Ovviamente non le abbiamo dato Irina. Molto interessante. Non abbiamo Vex, non ha voluto da chierico. Vex non ha voluto. Dipende che tipo di chierico. Vex non la maggior voluto. Parte dei miei chierici avrebbe pensato così. Vex cioè, non ha voluto consegnare Irina. Vex non capiamo ancora perché. Vex ha detto no, non possiamo consegnare Irina. L'alternativa era o scappare diretti, o scappare diretti verso il tempio. Che non sappiamo dov'è. Che non sappiamo esattamente dove, sappiamo. Ma no, non abbiamo sappiamo una mano. Nelle montagne. Che è sulle montagne. Sì, negli Appennini c'è un tempio. Vai. Un po' questo, altrimenti andare in questa abbazia che ci hanno indicato come posto sicuro, praticamente, okay. Giusto? Dove si sta, che è quella lì. Dove eravamo. Sì, se Salla magari non ruba anche qui. L'idea quindi la reliquia che permette a Strad di non entrare. L'idea che è venuta adesso quindi è di portare Irina a questa abbazia, lasciarla lì, che dovrebbe essere sicura, e poi andare a cercare il tempio. Prima di fare questo, ti ricordi gli elfi fuori città? Sì. Gli elfi che storicamente combatterono contro. Vabbè, siamo passati da lì. Il mio obiettivo era tipo dire: dai, venite con noi per una volta, fate una cosa che ci sia utile della vita. PNG bastardi. Arriviamo. Ma ovviamente. Anzi, lui, mi sembra solo lui è andato. Insomma, mi trova il capo degli elfi. Come si chiama? Casimir. Ah, io lo chiamo Kevin, però ok. Legato Kevin. Ad un palo e malgrado solo. Gli altri elfi, per paura appunto che si andasse in una battaglia che non dovevano combattere, non si chiama Kevin, se ne sono andati, mi viene in mente solo Kevin. Quindi lui viene Kevin. Con noi, quindi siamo noi con Irina, il fratello, oh. L'elfo, oh, che andiamo con la pazzia. Troppo grosso. Quindi siamo noi, i due fratelli con gli occhi e l'elfo, che andiamo verso la pazzia. Ma come? Abbiamo già scelto il mezzo? Cavalli. Abbiamo già preso i cavalli dal barone. Pensavi di andare in go-kart? No. Ne abbiamo già presi, siamo già partiti. Oh ragazzi, ho trovato questa carrozza. Adesso siamo... Ah, ne abbiamo presi vari. Anche per fare il cambio. Dalla stalla. Sì, anche per fare il cambio. Questo non l'avevi detto. Non avevo la parte che cambia. Lo dico adesso. Sì, ma tanto. I cavalli del barone sono innumerevoli. Ma è inutile fare il cambio, devono comunque venire con noi, quindi si stancano più o meno uguale. No, perché fai. Scusa, quanti per, quanto c'è per, tra noi e l'abbazia? Comunque sono più freschi. Ah, se andaste. Leggermente, cioè. Giulio, facceli se prendere. Se andate a scacciare una mazza 12. Si arriva a Kretzk, da dove siete voi. Dipende che strada prendete. Ma più corta. La strada lunga e la strada corta. Ma quella corta, direi. Se prendete quella corta andando a piedi. Però no, a cavallo. Io valuterei l'idea di uccidere Rami. Ho le distanze. Ah, ok. Poi a cavallo si fa il conto. Che non so quant'è. Comunque andando a piedi. Secondo me tutti insieme a Rami potremmo ucciderlo. Okay. 4, 5, 6 ore e mezza. 6 ore e mezza a piedi. A cavallo un paio d'ore. Non so quanto veloce un cavallo. Ma non possiamo dormire. Beh, no, dormiamo all'abbazia, che è un posto sicuro. No, c'è Strad. Forse che... no, per colpa di Vez, no. Forse non l'hai capito. Se no, avremmo potuto dormire in carrozza mentre andavamo dalla strada. Che strada arriva? Se ci fermiamo qui, arriva il seguace di Strad con la carrozza. E se non partiamo con lui, lui avvisa Strad che viene e ci ammazza. Cioè, noi dobbiamo andare all'abbazia. Prendiamo tipo dei chiodi. Basta. Continua. E ci inchiodiamo tutta la popolazione. E ci inchiodiamo Irina dentro. Così sta ferma e non rompe il cazzo. Se fra tipo 3 ore. E dopo ce ne andiamo. Se fra tipo 3 ore siamo alla battaglia. Non possiamo andare a strada a questo punto. Al posto che inchiodarla dentro. Io l'ho detto. Sorrentino. Scusa, se andiamo all'abbazia, tipo in 3 ore siamo là. Forse possiamo permetterci un'ora almeno di riposo. Quello sì. Andiamo all'abbazia. Poi ci riposiamo. Perché se ci vogliono 6 ore e mezzo a piedi, adesso a cavallo ci vorrà molto meno. Secondo me 2 ore e mezza, 3 ore, a metà. Non ci sono i tempi di viaggio del giocatore. Scusa, il sito che avevi postato l'altro giorno, i tempi di viaggio? A piedi sono questi. accendia solo Pini. Sì, c'è un numerino solo. Scusa, non lo sai da statistiche quanto corre un umano e quanto corre ci dovrebbe essere. Sai che dico dal bestiario? In teoria vedi, no, vedi le varie andature, se vai a passo lento, passo veloce, queste cazzate. Sì, perché non funziona come nei turni, ovviamente, l'andatura, la viaggio è diverso. Credo di essermelo anche scritto. Ma che bravo. E l'elfo sa la strada, per curiosità, intanto glielo chiedo. Ritmo, cioè, l'elfo viaggio conosce la zona meglio di noi. È un, come abbiamo detto, il popolo degli elfi del crepuscolo. No, noi stiamo lasciando anche il medaglione della vecchia dietro. Stiamo lasciando anche il medaglione della vecchia. Effettivamente non ve l'ho detto. Cavalcatura, un'ora di galoppo, fast per due pace. Quindi vuol dire che devi prendere il veloce per due. Quindi? E il veloce è al giorno 30 miglia, all'ora 4 miglia. Miglia. Quindi vai 2 miglia all'ora. Comunque ti dice che vai al doppio della velocità, giusto? Sì. 2 miglia all'ora. Quindi se appena ci mettete 6 ore e mezzo. No, dice che ha preso la palla, per me è 2 miglia all'ora. Non so quanto sia un miglio, però. È un quadretto. Un chilometro e un quadretto è un quarto di miglio, quindi un miglio sono 4 quadretti. Un miglio nautico è un chilometro. Ragazzi, guarda, basta sapere che vai al doppio della velocità. Ah, no, prendi la palla, forse. Dov'è la palla? Prendi la palla. Vedo gli altri incantesimi, tra l'altro. Incantesimi forti. Allora, come vi diceva il caro Atanas, no, in realtà, avete recuperato il povero Velikov, l'elfo sordo. Che è vinto. No, le orecchie, aio. Non sono orecchie. Esatto. Che vennero. Kevin. Okay, Casimir Velikov. Ah, il cognome Kevin. Kevin. Casimir Velikov. Velikov non è proprio, cioè, un po'. Cioè, è il suo originale. Non è il suo originale, lo adottò. Tanto anche se lo chiama Kevin, non sente. Sì, tanto adesso se ne va. Esatto. In quanto grande amico dei Vistani, perché praticamente per assicurare la sopravvivenza del suo popolo se li è ingraziati ed è entrato talmente tanto in contatto con loro ad aver preso addirittura un loro cognome, e l'avete ritrovato pesto sul limitare della foresta allegato ad un palo, e insomma vi chiedo un pochino che cos'è successo. Cioè, lui vi ha detto che appunto ha provato a convincere, come il saggio Vardistran aveva suggerito, di portare alla ribellione i suoi compagni, ma loro, troppo intimoriti dalle ripercussioni che un'ennesima ribellione avrebbe avuto. Radi sta arrivando, dovremmo portare Irina al castello, ma Vardistran ha ritrovato la sua fede da paladino e no, dobbiamo salvarla. Che imbarazzo. Appunto lui vi aveva già raccontato la sua triste storia. Quando anni or sono fu costretto a lapidare sua sorella per impedirle di lapidata per scelta, cioè proprio come la uccidiamo? Lapidiamola per impedirle di andare con prescrive la Strad. E cioè, in realtà, diciamo veramente come la troia, gli ha tirato la prima cosa che aveva in mano. Probabilmente è andata così. Non lo sapremo. L'unica spiegazione è cosa. Ma non lo sapremo. Ma sono brutte persone. Cavallo di Troia, infatti. Oh. Okay. E quindi, mentre gli raccontate queste cose, si rende conto della portata della situazione, perché lui ci è già passato. E aperto, non dico di una pagina a caso, ma quasi. E quindi esprime il suo cordoglio per voi e soprattutto per Irina. Abbiamo già fallito, aspetta. No, perché sa quello che andrete incontro. Irina sembrava, mi spiace, raga, vabbè, dai. Ormai, no, dato che c'è già passato. Si vede l'incendio da qua. No, a proposito, ma comincia a piovere. La casa che brucia. Figa. Hai dato fuoco alla casa, non mi ricordavo. Ha dato fuoco alla casa del barone. Ma è nostra. No. Un tuono squarcia. E non è più di nessuno adesso, ok? E una pioggia pesante comincia ad abbattersi sulle vostre povere teste. E effettivamente era da... avrei dovuto far piovere più spesso, quindi mi sembra un momento per iniziare. C'è la nebbia. Io voglio recuperare il medaglione della tizia. Alla fine abbiamo fatto quello che la nostra ricompensa. Effettivamente, se fosse andata da lei con la testa di vabbè, il corpo è bruciato, ma cioè, abbiamo fatto anche molto di più. Abbiamo ucciso il barone. È vero, vi siete stati ringraziati calorosamente. Allora, tanto da accendere un fuoco. Per la prima volta mette gli occhi su Irina e dice: finalmente incontro la reincarnazione di Tatiana. Da un sasso. Da? Cosa che dice? Dice: finalmente sono al cospetto della reincarnazione di Tatiana. Chi è Tatiana? Chi è Tatiana? Non so, di essere l'unico, non sapevo. È la prima volta che sentite questo nome. Chi è Tatiana? Ma non è la... Per caso ti ha detto il nome della sorella? La sorella di Casimir è la Petrovna. Sì, Petrovna, sti cazzi. Petrovna sa molto di prostituta, però ci sta che fosse Petrovna, scusate. Pietra Petrovna. Petrovna uccisa con le pietre? No, dai, no. Bruttissimo, no. Mi hai messo un dubbio? No, è... Ah, è Patrina, scusa. Ah, ok. Patrina Velikovna. Vai, prendi la bar grosso. Tatiana. Allora, sono arrivato presto oggi. Sì, perché hanno allenato. Ci aveva detto mangio dolce lì. Tanta roba. Ma possiamo fare un... tiro per per cambiare il nome. Non siamo mai stati qua, non dobbiamo sapere. Cosa vuoi sapere? Dovete sapere che all'inizio di tutto, quando ancora fa schifo, questa valle non era precipitata in preda di questa maledizione. Questo era un bellissimo posto, una valle felice e prospera. Poi avvenne il giorno nefasto e arrivò l'arcidiacono. Zona di verità potrei prendere. Non ce l'avevi già? Oh, a me non sembra che di solito arriviamo e interroghiamo la gente. La interroghiamo in un modo in cui non sta. Beh, ce l'ho anch'io. Si chiama tavolo pieno. Davide da collina. Beh, ce l'ho anch'io. Si chiama Martello da guerra. Fa la stessa cosa. Basta. Vero? Ciao Arci. Fabiciale. Ciao. Scheda. Salutiamo Arci. Due schede qua da questa parte. Sarà Giulio, penso. L'ho tirata prima fuori. Guarda qua. Giulio, ho detto bene. Arrivo a prendere zona di verità. Ho detto noi abbiamo gli stessi incantesimi. Non c'è mai servita. Il mio si chiama Martello da guerra. Beh, lo devo dire che l'hai avuto. L'unica zona che sarebbe potuta servire è la zona di silenzio. Sì, esatto. Sporco. Beh, adesso non avrei un incantesimo di disagio. Dovete sapere. Da poco, in realtà. Da poco. Vest mangia sempre tardi. Siamo poco appena finito il riassunto. Venite lo di quanto fuori gioco vestito. Stiamo avendo uno spiegone di chi è una tizia. Esatto. Cioè, di chi è Irina. Chi è veramente Irina. Sì, puoi stare a picciare. No, questa è quella che hai tu, avevi tu, Katta, Find Steed. Sì, infatti mi aspettavo che lo prendessi. No. Che sarebbe? Trova a destrere. E colpire come tu avevi colpito. Cast in time 10 minuti. E poi sta lì però. Sì. E quindi scusa, io la posso usare una volta e mai più. Cioè non muore. Con me moriva sempre. E tra l'altro in questi ricordi gli animali lui lo trova già morto. In questo posto gli animali evocati sono dei non morti e posso scegliere. Puoi scegliere, sì, tra scegliere il non morto, i famosi, il cammello. Ah, sì. Posso scegliere, è un non morto se lo evoco. I famigli e gli animali evocati. Ah, a Barovia. Quindi lui quando diventa un orso, non morto, che lo nego. Hai vinto, cazzo. Sarebbe stato divertente, però. Cosa è successo? Niente. Quindi evochi un tuo destriero. Diventa una sorta di compagno animale. Dai, sì. Evochi un destriero che è un non morto. L'alce non morta. Tanto vale lavorare per Strad. E tutti stiamo pensando agli Happy Tree Friends. Perché non so finire così in continuazione. Arci, chi è Tatiana? Eh? Chi è Tatiana? Mi avete beccato Troia l'altra sera? No, chi è? Quindi viene il zero di vento. Gli era fermata Tachipirina lì. Tachipirina. È Irina. Okay. Tatiana è nuova. Tatiana, lei. Tatiana e Irina sono nuove. E l'elfo che ha detto di Irina è la incarnazione, la reincarnazione di Tatiana. E noi, chi è Tatiana? E lui stava dicendo, prima che la maledizione prendesse possesso di questo posto... E poi abbiamo cominciato a cazzeggiare e si è perso tutto il resto. Tanto tempo fa, in una galassia lontana. Ma la vecchia l'avete già uccisa, no? No, state scappando a gambe levate. Io però adesso tornerò indietro. Ti ricordi che andiamo verso l'abbazia? È l'unica, se no arriva a strada. Quindi siamo in viaggio. Siete per strada. Siamo per strada. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, tutto ebbe inizio con uno dei giorni più felici di sempre, il giorno del matrimonio tra... Vabbè dai, un nano barbaro potrà fare brutto ogni tanto. Questa bellissima nobildonna, di nome Tatiana, e il fratello più giovane di Strad, che vorrà un vuoto, non mi ricordo Tatiana. Come si chiama. Tatiano. Stradino. Stradino, senti. Vicolo. Che cazzo si chiama quel collo? Come si chiama il fratello minore di Strad? Come lo possiamo chiamare? Si chiama Tombino. Io direi allora direi Vicol. Vicol con la K. Vicol. Vicol. Stradin. Stradin. Che cazzo si chiama? Porca troia. Lo chiamerei se lo marciapiede. Anzi, sta marciapiede. Comunque potremmo la prossima campagna ambientarla a Trisigallo, siete d'accordo? Nel senso che andiamo là a giocare. Anche cazzo, bellissimo! Il live lo facciamo, bellissimo. Tanto non c'è nessuno per strada, mica ci rompo i coglioni. Qual è Sergei? Non ci problemi, ragazzi. Cioè, il bicchiere è uno di quelli, ma non so quale hanno usato. Sergei era fidanzato con Tatiana. Ha usato il giallo o il verde? Non ho usato nulla. Allora dai il giallo darci. Perché non il verde? Il verde è quello di là. È verde, però è il colore di Hulk più appropriato. Vuoi il verde? Verde? Scegliete i vostri colori. No, non penso bene semplicemente perché quindi fate come vi pare. Non berrò. Non penso non sarà al lavoro. Che cazzo? Allora. Sergei era fidanzato con Tatiana, una ragazza della valle. Anche Strad era innamorato della ragazza, non poteva sopportare che fosse di un altro, non era tuo fratello. Se voleva bene, no, lavorare. Cioè, sempre lì. Puoi continuare tu, me ne neanche un po'. Ah, se vuoi continui. Ah, Sergei, comunque, il fratellino di Strad, che era il fidanzato di Tatiana, giusto? Esatto. Quindi ma Sergei, perché si sposa? Perché era innamorato di Tatiana. No, Sergei, come mai si sposa con una donna, questo chiedevo. Con Tatiana, evidentemente. Un segreto. Beh, Tatiana. Dai, Tatiana. Grazie mille. Grazie, oh. Bevete. La. No, lo stai sei casata. Non so che sei casata. Non l'ho capito. Ce lo vogliamo mangiare un bel panettone o no? Un panettone? Come cazzo? Il panettone di Pasqua. Ma è una colomba uscita male. Panettone di Pasqua. Dai. Panettone di Pasqua. Cazzo, vestielo per la sessione pasquale. Tieno per la sessione pasquale? Ci starebbe. Non facciamo una sessione pasquale. Non lo so, era per dire. Beh, Pasquetta lunedì. Noi siamo sono in Thailandia. Riusciamo a vegetare un po'. Riusciamo a fare lunedì prossimo? Prima e basta. Prima dai, mangiamoci ora. Va bene. Taglialo a metà per giulio, l'altra metà la dividi per noi. Lasciala intera a metà di giulio che fai prima. Giusto. E poi Ars mangia noi. Per no, io non mangio. Lui non mangia. Lui non mangia calorie. Che fa? Tu non bevi, lui non mangia. Che peste. Strava gente. Sai cosa vanno a fare? Oh, che strada. Vabbè, raccontaci sta storia. Aspetta. Vai, tanto sente, tanto mi interessa. Vezza, accendi le orecchie. Tanto lui c'ha il pallino di Rina ormai, che non ha capito che Tatiana. Sì, Rina Tatiana, quello che è. Appunto. Quindi scusa, se dici così, Strad ce la voleva fare con la cognata, quindi prima, cioè, del matrimonio. Erano solo fidanzati. Si innamorò perdutamente di Tatiana, ma lei preferì il suo più giovane fratellino. Più o meno. Ah, sì. Cioè, mai è Vampire Diaries. Però sì, è venuto prima questo. Ma come è venuto prima questo? Sì. Sì, è cos'è? D&D? Addirittura prima della 3.5. È della seconda. Ah, sì? Sì. Questa non è una è la riedizione della quinta di una roba che c'era in seconda edizione. Interessante. Andiamo a fare una causa Vampire Diaries per plagio? Tutte le storie sono uguali. Cioè, la storia di Dracula e Bram Stoker quante volte è stata copiata? Sì, effettivamente. L'orgoglio di Strad, ovviamente, lo salutiamo Bram Stoker. Ci sta seguendo, bella bro. Gli impedì di mettersi in mezzo alla unione dei due giovani innamorati, ma fino al momento in cui decise di mettersi in mezzo, si fu il giorno del loro matrimonio. Non mi metterò in mezzo ai miei due giovani innamorati. Finché lui... il nuovo Don Rodrigo. Strad impazzì. E... ma se la sedeste fa un unico cavallo lì, buonissimo. Buonissimo. Vedi che qualcosa manda. E uccise suo fratellino. Ah, beh. Uccise in chiesa così davanti a tutti. Cioè, in chiesa. Durante il matrimonio. I dettagli non si sanno, anche perché i testimoni di quel giorno non ci sono rimasti molti. Se vuoi guarda su Wikipedia. Quindi quanti anni fa sarebbe? Più o meno. Stavo dicendo che voi siete nel 700 circa. E l'ho detto l'altra volta, uffa, perché non state attenti. Veramente è la prima volta che nomini Tatiana. Con l'anno in corso dice solo che è ucciso il fratello poche ore prima delle nozze. No, ma parliamo di generazione, la primavera del 351, centinaia di anni fa. Centinaia, quello 400 che... anni prima di anche. Adesso vabbè, ora noi c'è ormai, era la primavera del 351, quindi ha aspettato 400 anni per Tatiana lo respinse e scappò. Lui la seguì fino a che la ragazza non cadde in uno strapone. Faglielo dire a lui, ha capito, non andiamo più avanti, lo leggo da... vedete che Atanas tira fuori un diario. Dove tenevi questo? Una brochure. E si sente una voce dall'altro. Benvenuti, dove puoi a saperlo? Benvenuti in Barovia. Gottestrad. Infatti, ho visto che io mi trovo così bene in questo posto. Ah, se no tipo Shrek, accendiamo il macchinino delle marionette che ballano, che ce la racconta. Quindi Strad uccise Sergei e bevve il suo sangue, sigillando il patto oscuro. E che le legò per sempre a questa terra. È verifico che inseguì quindi la promessa sposa di Sergei attraverso i giardini del castello. Sergei, Sergei, piace più Sergei. Sergei, determinato a farsi accettare e ad amare da lei. Si chiamano Sergio, insomma. Ma lei decise di rifiutarlo e si gettò giù dai balconi del castello per fuggire al suo inseguimento. Se Irina fa la stessa cosa, non la chiudiamo prima. Nel frattempo, cogliendo l'opportunità, delle guardie traditrici attaccarono Strad. Tanto preferisco il Pandoro. Trafiggendolo con molteplici frecce. Nel dubbio. Senza le uvette e quei canditi in mezzo al cazzo, ma che buono. No, ci sono i canditi. Ma Strad non morì. Il patto che aveva appena sigillato lo preservò. Anche Strad si buttò. No, tra appunto delle guardie traditrici lo attaccarono in quel momento. Sono sessioni di svangate di cazzo, è che ci sono sempre, anche quando non ci sei. Non è vero, sono io con cui state citato. Sì, è stata l'unica sessione senza veramente pause di... È stata una volta su 13 sessioni, sì. quindi patto. Lui ha ucciso il fratello e ha fatto il patto bevendo il suo sangue. Lei, pur di fuggire da lui, si è suicidata. Lui è stato in teoria ucciso dalle guardie, ma non è potuto morire. Ma era una strada ancora umano. È come è diventato un vampiro. No, pazzesco. Sì, ma una cosa, questo ce lo sta raccontando chi tiene Tatiana? No. Tatiana è, parliamo di 400 anni fa quando si è suicidato dal balcone all'epoca. Sì. Okay. Però l'elfo ha detto che Irina è la reincarnazione di Tatiana. E non è mai caso chi è Tatiana? E mi ha iniziato a raccontarci la storia. Chi ha fatto la domanda? Chi ha chiesto chi è Tatiana? Che viene il colpevole? E come è finita? Si è suicidata. Ma vabbè, lui ha detto Tatiana e tu. Tatiana, cioè, se non l'avesse fatto lui dopo 10 minuti l'avrebbe fatto in quel momento. Raga, ma ho degli incantesimi fortissimi ora. Nobile. Combattiamo. Ne puoi fare uno solo. Combattiamo lui per provarli. Andiamo contro l'altro. Ma che mi teletrasporto? Appena arrivo a combattere va via. Ti ricordi quante volte te l'ho usato in faccia? Nessuno. La vendetta. La vendetta. Andiamo a combattere contro Radi allora. Stavo per dire chi è Radi, però sono zitto. Ma in che senso è reincarnazione? È l'elfo che ti ha dato il +2 alla costituzione. Da questo posto nulla può andare via. Senza. Noi è capitato di vedere delle anime come intrappolate, quindi l'anima di Tatiana è intrappolata. Così come vivi, anche le anime sono intrappolate in questo posto. Ma quindi anche gli altri possono reincarnarsi, chiunque. Periodicamente le anime ritornano ad occupare il corpo di un nuovo nascituro. Devo morire. E periodicamente l'anima di Tatiana ritorna ad albergare in una giovane. Quindi è già stato altre volte. E anche altre volte Strad. E tutte le volte in cui Strad cerca di afferrare la sua preda, qualcosa, probabilmente una maledizione di questi poteri oscuri che lo condanna in eterno a rincorrere la sua preda, fa andare storto qualcosa e manda i suoi quindi, piani. Dai Katta, mi stai facendo interessare al calcio, visto che è successo in passato. Se dovessi riuscire malauguratamente a prendere Irina, cosa succederebbe a Irina? Altre volte cosa è successo? No, aspetta, lo vediamo tra poco. Il destino se la bomberebbe, cioè. No, sì, vabbè, quello ci guadagna. Il destino delle mogli, delle innumerevoli mogli che ha avuto Strad negli secoli è quello di appunto diventare progenie e servirlo nell'eternità. Ma pur di risparmiare questo destino a mia sorella. È mai riuscito? No, certo. È mai riuscito a sposarsi con un'incarnazione di Irina, quindi, di Tatiana. Cioè, lui ha anche le altre moglie. Ora, ci sono. Sì. Ora non le avete ancora con questo lo dico off game, però. Allora, la sorella dell'elfo è stata lapidata pur di non darla a lui. Tatiana, pur di non darsi a lui, si è suicidata. Ora. Sì, sento un po' di empatia. No, a parte questo, ma questa Irina. Perché no? Aiutiamolo. Irina, vieni con noi. Cioè, capisco cosa vuoi dire. Cioè. A parte questo, però, Irina potrebbe anche farsi da parte da questo mondo infausto, insomma. No? Comunque, Strand non è mai riuscito a sposarsi con un'incarnazione di Tatiana. Ma che voleva fare? Ma non lo sapeva. È come Luke e Leila. Esatto. Che ne so, magari poi il vampiro è morto. Entrambi si fanno al sole. Ok. Ma chiedo. Poi è sempre stato qualcosa che gliela. Chiedo ai fratelli Kodionovice. Koglian. No, sì, vabbè. E se sapevano di Coglione. Conoscevate queste storie, queste leggende? No, è la prima volta che ne sento. Ok. Ma adesso è meglio che ci sbagliamo. Cosa ne pensi della morte di Irina? Così, per parlare, insomma. Irina in realtà è attratta dalla strada. Sì. Segretamente. E quindi ci si sta scappando. Ma gliela consegniamo. Dopo abbiamo tutto il tempo che vogliamo per uccidere Strad. Lui sarà riconoscente, ci sarà grato. Delle due ci aiuta anche. Ci aiuterà. Ci aiuti a trovare un posto. Scusa, dov'è il tempio? Quello che dicevo io, regà, era un diversivo perfetto da la zona. Ma noi adesso andiamo. È quello che ho detto anch'io come prima cosa. Di tutta la compagnia. Stai dicendo con Irina lì che ti ascolti. No, niente. No. Noi adesso andiamo alla di tutta la compagnia c'è solo uno che non vuole consegnarla. E sappiamo tutti chi è. Pagarino. L'albero non è un bel atteggiamento dei confronti. Ah, c'è il barista. La figura del chierico, qualsiasi cosa decidiamo io. Irina dice, la capisco. No, neanche lui. No, in due. Io ho detto. Cazzo, non che sia. Pur di non consegnarmi a quel mostro, mi ucciderei anch'io. Forse per questo che voglio consegnarlo. Bene. Hai detto che piuttosto che consegnarsi a quel mostro si ucciderebbe, quindi... Va bene. Consegniamola. Basta bloccarla. No, aspetta, piuttosto che consegnarsi a quel mostro, la consegniamo noi. Punto. Quello di lavoro tra il chierico e il... Qual è la partita? Scusa, Elfo. Spiega a Coglionovic come hai fatto tu. Bravo, Madonna. L'ha sentito. No, no, scherzo. Però potremmo dare... Potesse evitare. Tipo, prendiamo un sacchetto pieno di pietre e lo diamo al fratello di Rina e poi chi vuol capire capisca. Non vorrei mai essere nei panni di chi ucciderà. Prendiamo un sacco pieno di pietre e lo diamo al fratello di Rina. Poi chi vuol capire capisca. Se recepisci il messaggio. Cominciamo a tipo... ci prendiamo per mano e poi già fare Kumbaya. Raga, vestiamoci da Irina. Andiamo da strada vestire. No, allora ci sta di. No, ci sta di lasciarla la pazzia. Andiamo a lasciare la pazzia, raga. E poi voi dopo vediamo. Ma da quando è che siamo in viaggio per la strada? Siamo appena adesso, abbiamo iniziato mezz'oretta. Se fare il conto casuale e poi dopo ci siamo. No, tra un paio d'ore arriviamo quindi. Allora, dobbiamo scegliere che strada prendere. La più corta, direi. Primo tratto. No, comunque seriamente, torno indietro. Va bene, metto giù la tua torno indietro. Cosa vado a prendere il medaglione della tizia. Ma ci passiamo, andiamo a prendere la fallo tornare indietro. Dopo quando? Oh. Quando avremo addosso tutto l'esercito di strada. Ma perché? Oh. Finisce una zero per il Chievo, te lo dico. Ma chi è? Ma che finisce una zero per il Chievo, anche. No, no, è impossibile. 2-0. Allora. Derico vi spiega la strada. A mezz'ora, andando a cavallo, arriveremo a un ponte. E quello è il ponte sul fiume. Stretto. La P? Sul fiume Luna. Luna, bravo. E qui sperando che non sia già troppo tardi e che quel passaggio sia non sia già stato presidiato da qualcuno. Beh, in quel teoria, caso potrebbe... Aspetta, ci tocca guardare. Arriviamo in un'ora, quindi totale, a questo punto hai detto. A cavallo, dato che siete già qua là, ci mettete anche mezz'ora. Non penso che in mezz'ora strada possa già saperlo. No, guarda la... Non sto parlando di strada. Ah, ok. Vabbè, in generale, ok. E di chi stai parlando? Guarda. Esatto. Spero di sbagliarmi. Sbagliati su chi? Sul traditore. I tuoi amici elfi. Cioè i tuoi compagni elfi. No. Ah, Redsmir. Non Redsmir, è Radi. Lui. Radi. Quel maledetto. Redsmir è l'altra compagna. Chi? Ha condotto... No, no, no, chi? Sì, no, chi? Dai. È l'elfo che ha l'amico di Arsi. Il tirapiedi di strada. Ah, di Arsi. Non so, il tirapiedi di Arsi. No, non è la macchinetta che distribuisce statistiche. Esatto, quella. Anni e anni or sono... Condusse personalmente l'assalto alla mia gente e fu lui a farmi questo. Perché dici che dovrebbe presidiare quel ponte? In teoria lui dovrebbe venire a prendere Irina domani. Non vi ha detto così. No, ha detto adesso in teoria. Cioè, in teoria sta arrivando neanche arrivava la carrozza e noi dovevamo partire. Il concetto doveva essere. Non c'è detto il giorno dopo. No, il giorno dopo non dobbiamo possiamo usare, far finta di aver capito il giorno dopo. Quando abbiamo incontrato strade erano te. Sta arrivando e ha detto sta arrivando una carrozza, domani a mezzogiorno dovete essere al mio palazzo. No, sono troppi canditi. Non si sentono tantissimo. Sono canditi, sono che fanno. Chi è che no che ha mangiato poco panettone? Io ho pezzetto di panettone. Ma c'eri ancora? Ho mangiato anche della colomba a casa io in realtà. No, io ho mangiato tutto quello che avete mangiato voi. Vi dice che quell'essere ha la capacità di cavalcare il... L'hai evocato Stalce? Ci vuole 10 minuti. Ha la capacità di cavalcare l'incubo che risiede nel castello del conte. Un po' grande. Quanto destrezze sua? Mi sella quell'animale riuscirebbe ad arrivare in un batter d'occhio parla, a qualunque punto della valle. No. Anche lì è molto rosso, se vuoi guardare. È vero, giuro. È vero, è la stessa cosa. quindi sì, dobbiamo sbrigarci sperando che non sia già troppo tardi. Quindi è l'altra possibilità, è l'altra strada? L'altra no, no, questo è il primo il bivio, punto cioè, critico. Dopo il ah, il bivio par furs. Cioè, una volta superato il fiume, scegliere, cioè dopo il ponte, cioè la strada attraverso le foreste. Passiamo dopo le feste, allora, scusa. Queste due strade. Ah, passiamo dopo le feste. Come fanno le strade in sto posto? Perché non sono cioè, una che taglia più corta che taglia. Ok, tu normalmente fai delle strade perché passano da qualche parte. Una gira la foresta, sì. L'altra la taglia e dentro. Una è dentro la foresta e l'altra è dentro la foresta. Sì, però, è, cioè, probabilmente non ci sono alberi magari per sì, qualche metro. Se fosse un villaggio dentro la foresta. Un sentiero e l'altra è una strada. No, cioè, ognuna porta qualcosa. Sì, questo è un sentiero, vedi come è tracciato, questa è una strada. Tra l'altro dobbiamo anche raggiungere il tizio che voleva uccidere la... Ma quindi tu torni indietro, non sei più con noi. Ma lascialo stare. Cioè, a un certo punto gli dico, magari se ci dividiamo non saprà. La strada più corta passa attraverso la foresta. Così ti va incontro. E costeggia il lago Baratok. È un suicidio. Sì. No, ho capito, vuoi uccidere i cavalli? No. La strada più lunga invece no. Attraverso il sentiero, chiaramente. Conto di non incontrarlo, di riuscire ad evitarlo. È più facile da percorrere per... che non ci sono gli alberi in mezzo. Ma secondo me potremmo riuscire a ucciderlo solo per massimo di tempo. La percorrenza dura 4 ore e mezza no, contro 3 ore e mezza. Sì. Dici sempre a piedi. Proveremo a andare a quella più, più veloce. Quella cioè prima ci mettiamo di più, però a meno che i cavalli non siano rallentati dal fatto di passare la foresta, cosa probabile. No, è un sentiero che i cavalli possono fare. Capisco la tua preoccupazione, ma ho battuto quella strada e se è fattibile. Va bene, andiamo intanto al bivio. Poi sì, in realtà voglio splittare il party solo per questo splittare il party. Ma quindi tu, Atanas, vuoi tornare indietro? È follia, pura follia. È già tornato indietro, non sto parlando con il vuoto, signor Barsi. Allora andiamo. Ti confermiamo, prima di partire ci mettiamo d'accordo su che strada fare, i momenti che ci vuoi raggiungere. No, no, è meglio, è più sicuro se non me lo dite, in caso le cose vadano male. Ok. Ci vedi? Non lo vede là sullo sfondo Atlas che sta cagando la morto giù mentre galoppa. Ci ritroveremo. Tanto ci ritroveremo là all'abbazia. Fatta a pianoforte, però in maniera quasi romantica. Ci ritroveremo all'abbazia. Vogliamo davvero dividere il party. Ma non puoi venire con noi fino a aspettatemi 3 giorni. Dividere il party, però non è lui che no, perché io andrei volentieri con lui, visto che sto via 3 giorni, dormo almeno. Recupero l'incantesimo. Ma tu non hai. Cioè, cosa vuoi aver perso? Perché hai partecipato. Non abbiamo ancora riposato. Beh, ma tanto anche se va, lui va, prende il medaglione e torna indietro, l'idea è quella. La strada è lunga, il tempo c'è. Vabbè, vuoi davvero andare con lui? Split the party! Beh, per fare un po' di l'unico veramente con lui. No, l'unico veramente contento è Katta, cioè... Sì. Ci va anche l'altro. Boh, scusa, torniamo indietro di Amirino. Scusate, nel peggiore dei casi... Possiamo andare Irina a loro? Cambiamo parti. Nel peggiore dei casi guadagniamo tempo per voi. Se io muoio già il prossimo personaggio. Nel peggiore dei casi... Quando io muoio? La reincarnazione di Adenè. Sì, ha detto che si reincarnano. L'utilità di avere la reincarnazione. Si reincarna in un neonato quando nasce. E giocherò un neonato, che problema ha? Okay. Ah, capisco, va bene. Che nel peggiore dei casi vi... no, aspetta. Sì. Nel peggiore dei casi cioè, ok. Ma nel peggiore dei casi vi guadagneremo un po' di tempo per se inseguirà noi, se questo in realtà non è del tutto negativo il nel problema. Peggiore dei casi. Nel migliore facciamo quello che dobbiamo fare, ci ritroviamo tutti all'abbazia diciamo tra 3 giorni. Aspettateci almeno 3 giorni. L'alba del terzo giorno. Vediamo se il paladino è d'accordo sui 3 giorni. Sono d'accordo. Una volta arrivati all'abbazia non è che... magari un giorno tempo di riposare e partire. Magari la sua idea è quella. Anche perché... E dove? Sarà meglio questo, che facciate delle ricerche serie su dove lo dico sussurrando a Telmod che lui non senta. Io voglio stare dove non è Irina. Allora, io dico... Perché lui dice... Voi andate all'abbazia, intanto ci aspettate 3 giorni. Se non ci siamo, partite. Vieni anche tu con noi? No, io ho riportato quello che ha detto lui. No. Capito, Vez? Sì, ho capito. Allora io dico... Delle due può essere utile perché ci fanno prendere tempo. In quei giorni fate ricerche su dove è sto cazzo di tempio. Cosa fa? Oddio. E io dico, paladino distratto, facciamolo. Io dico, è pura follia. E tornerete lì e verrete sicuramente massacrati dalle guardie di Strad. Quel medaglione di certo non ci sarà utile per nulla, quindi è pura follia. Però non abbiamo tempo da perdere, per cui presto, andiamo. E quindi io parto con gli altri. Abbi un po' di fede, ti vuoi dire. Voi vedete voi cosa fare. Abbi fede, paladino. Va bene. Però Arzi, non mi fa pedino. Decideremo una volta lascio aspettare 3 giorni, vedere intanto cosa fa. Nel momento in cui la massia, io lascerei, cioè vorrei stare lontano dai Rina. Ah, cioè che Rina è il faretto che coso, quindi ho capito. Arrivate lì, andate nei boschi senza nessuna informazione su dove è questo tempio. Eh no, cercheremo qualche informazione. Appunto, aspettate. E tu dove chi la vuoi questa informazione esattamente? Dal medaglione. Ma che ne so, la cercherete voi all'abbazia. Vabbè, comunque non ci spero. Io ho l'elenco degli ammoniti. Non spera che nel medaglione sta mappa del tempio. Beh, dopo tutto le maglie gialle. No, esatto, bravo. Non ho capito perché l'hanno ammonito stavolta, però. Simulazione. Forse simulazione, ma boh, potrebbe lasciare ancora. Vabbè, okay. Dai, andiamo avanti. Nel momento in cui vi salutate sentite diversi ululati in lontananza. Da che parte? Intorno a voi. Oh, cianciolano. Rigore, rigore. Sì. E un rigore fischiato da un arbitro. Sì, ma se lo tira il bollone non lo metto. Oh, che palle. Lo tira il chievo. Quarto rigore consecutivo. Gemaio Pulgar. Gemaio Pulgar. È Pulgar. Però terzo rigore in 4 partite, mi sa. Fatto un gran numero qua. Questo è un bel numero. Tac, tac, questo è un gran numero. Ah sì. In mezzo a 2 così, tanta roba. Socio. Sì, beh, questo è ineccepibile. Boh, vedremo. E va bene, noi andiamo. Coso vi esorta ad accelerare il passo e spronare i cavalli perché la foresta di notte di sicuro ululati, non è il posto più sicuro dove stare. Agli ululati molto stupidamente chiedo al master, quindi sono lupi banalmente o gli ululati sono indistinguibili dal tipo di lupo. Se siete fortunati sono dei lupi normali. Intendi ululati di lupo, non so che sì, ma se altri versi particolari, però non sappiamo se i lupi possono essere lupi normali o no. Okay, questo non vi è dato sapere, ma devo dire che è proprio bello. Sperate che siano lupi normali. Ah, lui li ha sbagliati. No, sono le. Ah, manca il pallone giallo. Questo l'ho tirato. Li ha fatti parte tutti. Sono la grafica di Sorrentino, bravo. Se rigore quasi sicuramente lo farà. Lo tira alto. Ragazzi, ma ti rendi conto che quando avrai 70 anni avrai un collo del genere? No. Vabbè, non ci arriverà a 70 anni. Dai così, dai cazzo! Ah, l'aveva pure preso. L'aveva toccata. Li segno tutti! Vuoi dire che finivano 2-1, non so cosa ti dico. Oh, 4 gol in 21 partite, 4 gol su rigore. 4 tirati, 4 segnati. Per sbagliare un rigore devi essere un... Cioè, no. Non è così facile. È più facile che contro Sorrentino non è facile, e infatti l'aveva presa. Aveva tirato malino, in realtà. Aveva tirato malino, Non era impossibile per Sorrentino, in realtà, è andata bene. E che non ha. Stanno andando troppo. Non l'ha né alzata né tenuta bassa. Quella via di mezzo. Ma una corsa bassa. Stavate scappando comunque. Allora. Sentite anche voi gli ululati, Sì, ma noi siamo amici dei lupi. Ah, cosa? In base a cosa? Me l'ero perso. Noi siamo amici. In base a che quando incontreremo i lupi faremo parlé. Vabbè, e poi là, siamo a mezz'ora dalla città, a mezz'ora torniamo in città. Cioè. Vabbè, noi partiamo a fionda con l'elfo, i due coglioni, e, insomma, tutti tranne loro due. Okay. Partiamo a fionda verso il ponte. Da gente. Esatto, l'elfo vi dice: conosco una strada, seguitemi. Avete pure l'NPC? Esatto, avete guadagnato l'elfo. Abbiamo appena discusso su che strada fare, tutti i giri. Conosco una strada. Conosco un sentiero. Insight. Uno. Scopri che è un elfo. Anch'io non mi fido. Aspettarvi in una trappola. No. 24 su Insight. Cioè, è dritta la strada da Vallachi a. 24 su Insight. Vuol dire conosco la strada e. Anche noi, è quella l'unica via dritta. Può anche non mentire, tutti conoscono una carta strada. 24 su un altro rigore gli ha dato. portarvi in una... Che cazzo di culo? Finirà 3-2, non so. Per andare dove? Per andare al ponte. Ah, uno scorciatoio, intendi? Diciamo un passaggio sicuro. Ok. Catta 24 su Insight, è sincero? Sì. 5 su Insight, è sincero? È conduttore da solo stavolta. No. Non so. Mi rivolgo a Sir Barista di che sto mentendo. Non lo so. Gli effetti, Caduto da solo. Posso dare ragione là? Non lo so, bisogna vedere. Da qui sembra. Però mi sa che lo va a rivedere. Effettivamente il tocco... No, non l'ha chiamato. Ma è fuori gioco. Non lo so. Non l'ha chiamato Vara. Oh, l'ha toccato. La VAR comunque controlla se uno sbaglio evidente. Se uno sbaglio evidente ti dice hai sbagliato, poi dice ok, confermo. Se qui confermo vuol dire che il tocco c'era. Di nuovo polgare con Sorrentino, attenzione. Vicario cosa fai? Ti sei sempre lì, cambilato lo spiazzi, tanta roba. È andato meglio e ha spiazzato. L'ha spiazzato di brutto. Bravo, li segna i rigori, bravo. Sì. Tra l'altro due di fila così. Due in due minuti praticamente, sì. Ha sempre su di lui il fatto. Allora, però no, sempre lui a battere il rigore. Questo era più tranquillo perché sapeva che si sarebbe mosso poco prima e infatti l'ha guardato. Ha capito come si metteva. Sì. Perché prima non aveva capito dove si buttava e quindi aveva deciso di... Sì, si era guardato fino all'ultimo. Invece qua ha capito e ha messo... Cioè, questo è un gran rigore. Perché lui fa così, lui gli tira bene effettivamente, perché guarda... Fino... Questo è un gran rigore, e sì. Poi se lo spara... Poi era peso quel pallone, Buon compleanno, Stobal. Cristobal, non lo so. Ok. Vabbè, dopo questa parentesi rosso-blu... Lui vi dice... Conosco un sentiero protetto. Anche a caso, sto diventando 150. Non ho mangiato, io non ho mangiato metà. No, mi va adesso. Sto ingrassando come la lascia lì. Tra Giaccherini va il gol dell'Exfis. Anche la tre gol dell'Ex. Sì, la tripletta dell'Ex è un grande classico. Chi è con tizio? Certo, come se il Bologna prendesse. Solo io e vicino a te sono tre. In teoria Salla. Cioè, nel senso, calcola che esiste. Vedi come gestirlo. Cosa farebbe lui? Sarebbe venuto con noi. Mandiamogli un messaggio. Sarebbe venuto con noi, secondo me. Abbiamo aspettato il par. Risposta, coglione. quelli che sono con l'elfo... Vabbè, dai, da 1 a 20 viene con noi e se dagli altri numeri va con noi. Vai, vediamo se risponde. Intanto, vabbè, gestiscilo come tanto se stesse lacciando le scarpe. Potete farmi uno stealth con vantaggio, chi è con l'elfo. Ah, io sono stealth di gruppo. Io la funzione di gruppo 18 era uno per tutti. Io che cos'ho? Io la no, non c'è nessuno. C'è il mail che ha svantaggio. Mm-hmm. Quindi tiro un dado e basta. Esatto. E fai quindi cioè tutti 5. Vest sono batte i piatti, quindi con vantaggio. Ha detto se sei con l'elfo sì. Ah, lui ci dà vantaggio. Però è di gruppo, quindi se passate 19. Se passate passo anch'io. Allora io non l'ho passata. Vedremo. Quelli che non sono con l'elfo lo fanno con svantaggio. Perché dovremmo fare un... Ah, se non lo volete fare va bene. Ma noi stiamo tornando in città. Sì. Cosa dovremmo fare? Uno stand? Sì, potete decidere se procedere. Non vi ho mica offeso. Cercando di essere io nascosti. Io ho già svantaggio di base. Scusa, vogliamo farlo nascosti? Ma noi torniamo in città, ci se ne frega. Pozzo lo dice. No, vero. Potete decidere quello che volete. Ah, no, non lo faccio. Tanto io sto girando con gli standard che ho scritto siamo sul due. Esatto. Allora Giulietto, la carta dice lo tenete lo standard così fuori o no? Giulietto sì. Sì. Teniamo lo standard infuocato. Per favore. C'è anche scritto Strada è il mio nuovo signore sopra. Molto bene. In realtà poi lo giri e c'è scritto io sono il nuovo signore di Strada. No, ma sapete adesso loro cosa fanno, vero? Come? Ci convertiamo. Ora vado a strada e dicono sta andando all'abbazia, segui. È sicuro? Beh, ora sei sicuro? No, che facevi? Secondo me ci potrebbe stare la cosa malfidata. No, però è una grandissima cazzata. Non sai cosa fanno loro? È la cosa più ovvia che vanno a fare loro, Non penso. Ma come non pensi? No. Ha detto dividiamo per far casino. È la definizione. Allora, io sarà questo. Guarda che hai il master è troppo che... impostato, dobbiamo fare un po' di cose. Ok, Sasa l'ha scritto che viene con noi. Ok, dai. Cioè, in pratica tu, cioè voi, noi come gruppo, abbiamo sta giocando su due campagne diverse. Tanto poco alla casa, scappati, e voi tornate subito indietro. Cosa vi aspettate di trovare? Una carrozza a cui dal fuoco? Ah no, da usare. Vabbè, sì, giusto, siete ospiti. Vai. Allora, chi fa? Se vuoi giocare prima loro, direi che... Fai prima gli altri. Prima gli altri, è arrivata al ponte. Sì. E c'è strada. Speriamo. Sono stati così carini. È crollato. I amici ad avvisarci. C'è ancora il ponte? Sì, il ponte c'è ancora. E le acque scorrono impetuose. A che distanza è il ponte da dove ci siamo separati? Che è più mezz'ora. Ah, quindi sì, arriviamo contemporanei. Sì. Allora, fai pronto. Sarà uno di quegli amici. Stavo dicendo io, cazzo. Aggiudicano dal fatto che rimane a terra. Sì. Sì, anche secondo me. No, non ha preso anche fuori l'altro. Anche ma che botta si sono dati? No, lui è disperato perché verrà espulso. No, solo già quello che sta volando. No, anche un altro. Sta... Che cos'è? È una mitragliata dagli spalti. Uno di voi fuggitivi mi tiri un D12 e un D8. Quali? Fuggitivi noi siamo. No, voi non siete No, noi stiamo tornando come i padroni della città. Dai, io il D12 e qualcuno di voi il D8. Va bene, se facciamo insieme? Così. Sì, sì. 5 così 10. Non sbagli. Ok. Ah, ne abbiamo fatto uguale, adesso. Ma è incredibile comunque, cioè tutta gente diversa, c'erano 2000 moniti. Vabbè, non intervieni così se so di essere monito già. 7 moniti. Ah. 6 o 7, sì. Quindi manca Sorrentino. Andiamo. Cioè, non ci stanno su nella grafica. 7. E non lo so perché ci sono le scritte sovrapposte, forse sono di più, no, non ci sono stanno. Quelle che sono in panchina, mi sa. Che ha cambiato? Ah, non lo so. Da tutta la squadra ammonita. Allora, cosa ne deriva da questi due 5? Allora, vi avvicinate al ponte per attraversarlo e rientrare di conseguenza nella foresta perché voi avevate scelto di fare il viaggio, la strada corta. Mm-hmm. Nel momento in cui state attraversando il ponte dal bosco e vedete uscire tre figure. Ah no. Tre lupi. Ah, ok. E che hanno fiutato la preda. Ah, e allora hanno anche cazzo in fede. Beh, noi li guardiamo mentre uccidono la preda. È bello, è tipo documentario. Noi stai parlando, vero? Loro, sì, loro. Sì, prima siamo preda di tre lupi in questo momento. Vai, iniziativa. Come iniziativa? Credo di sì, no? Scusa, ma non puoi... 10! Scusa, tu 17! Tu sei il druido, sciarma i lupi, calmali. Sciarma. Sì, scialla. Vai combattere con Ljonovic e... l'elfo. Magari era viaggio. Sei stato fa combattere voi due, però. Così uno di noi fa coliono e ce la fa fare. Tu vorresti fare. Cazzo, quanto mi suicido. Ma non penso che servirà a suicidarti. Andiamo a 9. Quando vuoi, io ho fatto 12. Ah, hai fatto 12. 12, io 17. 12 pietre. 13 pietre. Uno che non riesco ad ascoltare questa canzone è pezzo. Adesso tutti perché è diventata la sigla. Ah però, beh. Siamo come Rick e Morty. Non ci trovi, non ci vedi, non ci fotti. Non ci trovi perché è dopo. Quante fate l'iniziativa? Ci ha tirato? 12. Tocca a me. Tocca a loro. Sbranali. Vabbè, andate strezzato. Rinviando vi corrono incontro e attaccano Vez. Nel frattempo grande classico ne escono altri tre alle vostre spalle. Questo e bruciamo. Ah, giusto, ci aggiorni sui punti vita di tutti. Cioè io sono full, non ho perso un punto vita. Che curerò i lupi. Curite Pac, sì. Garrosh hai 48 su 62 perché neanche io adesso in realtà Vez ne ha 26. Anche con i nuovi che ho aggiunto? Sì. Cazzo sì, sul serio. Dallo, Piero. Era molto poco. 5 punti di per ricurare. Davvero. Cure lupi davvero? Così li passo loro. Io avevo buttato nel cesto tutte le mie cure, mi ricordo. Ma non ho capito se è vero. L'obiettivo del Chievos è finirla in rissa, no? C'è ogni intervento una roba. Solo che il cesto mi sa che non so se l'ho ancora di più. Cioè, di nuovo. Ma il Chievo rega di. Cioè, i lupi scattano in avanti e il prossimo turno vi saranno addosso. Già in serie B sicuro. Tocca a te, Vardistron. Se lo fanno loro si avvicinano. Ma non se io gli arrivo prima addosso. Esatto. Però a cavallo non so come funziona. Ad alce si dice, no? Non ce l'ho ancora. Non ancora. Attenzione! 13! Che usi il movimento del cavallo. No, sì, ma come funziona attaccare? Non l'ho mai fatto. Normale. Dipende dal tipo di cavalcatura che hai, se è senziente o mestrata. A due mani posso colpire? Sì. Certo. Cosa te lo impedisce? Non lo so. Il fatto di non avere più mani. Ah, no. Quello due mani male. A cavallo. Beh, sì, puoi fare. Cosa si chiama? 13! Pietro! Con una spada fai così a due mani. A cavallo, in realtà, per me è più comodo una. 13 no. È più comodo non usare le pietre e mi, è una bonus, bonus action e mi dava pure il disegno sul cavallo alta, però più che altro che non usi la tua forza, tu carichi col cavallo e usi un'arma che magari usi a due mani, ma semplicemente di fatto la usi per il contraccolpo, la tieni, la forza ti serve per il contraccolpo, tieni la spada, capisci, mentre carichi. Infatti i cavalieri non usavano la spada, usavano la lancia, no, il mazzafrusto, perché non si impigliava nello sfigato. Se no con la spada rimane giusto. Senti, Huntersman, oppure un martello. No, usavano anche degli spadoni, ma carica. Non finora alcuni di tempo. Davanti o dietro? Attacchi tre davanti e tre di dietro. Sono sei lupi, dai. Come sei? Hai detto tre? Altri tre sono usciti. Saranno 10 in totale. Vabbè, catta sul lupi ormai. No, attacco quelli avanti verso il ponte. C'è chi ha preso la strada sicura. Sono quelli più davanti a lupi. Oh! Ah, mi ha beccato. Scusate, uno ha beccato. Tra l'altro l'ultimo ammonito, cioè. Ne ha presi due uno dietro là. Vai, allora, antes vado a provare a colpire. Dire Wolf. Vai. Ho due attacchi ora. Sì. Che ironia. Ah, 19 più 7 di 6. Adesso sono tornati in 6 gli ammoniti. Esatto. Quindi ora ho 3 di 6. Che questo, che motivo c'è? E questo li ritiro. Perché sono due degli 1. Questo 1 non lo prendo, però va bene. Ah, non puoi ritirarlo finché non è 1. 10 più 4... 14. 14? Mm-hmm. Ferisci. No, devo fare il secondo attacco. Lupo crudele. Lo ammazzo? No, lo ferisce. 14. Secondo attacco. Sì, 14. Secondo attacco. 12 più 7, 19. Lo ferisce molto gravemente, ma è ancora in piedi. No, 19 è colpire. Tira a colpire del secondo attacco, 19. È colpito. È colpito bene. Ho sempre il più. L'hai colpito bene. Però ha anche la forza, subito, il secondo attacco. Sì. Oh. Beh, non è tanto. Più forza. 20, 12, 19. Però è ancora vivo lo stesso. Non è mica, ma sono delle bestie, non morire. Sono dei lupi, 34 lupi molto grossi. Ah, porca miseria. Hanno un qualche riassorbimento. Garrosh. Urgrush. No, no, il danno lo piglia tutto. Sono un lupo più grosso. Va bene, vado in un cazzo come il mio solito e vado. Merda, pezzi, danno mangio di assorbenti. No, ho capito. Questi stronzi se ne sono andati e ora siamo in pochi. Faccio attacco incauto, quindi sì. Tiro con vantaggio. Loro ovviamente non troveranno e... nessuno. Quello che ho davanti, non so. Nessuno mi ha vietato di tornare indietro. Tra davanti e tra di dietro. Ah, da dietro. Ah. Ma è che avete capito qualcosa di da che parte facile? Abbiamo capito noi che non siamo lì. Nella direzione in cui vogliamo andare. Sì, attacchi quello che magari ha attaccato Vez. Sì, va bene, attacco lo stesso. Sfidalo. Vabbè, 19 di dado. 19. 13, Pietro. Sergio. Quindi 11, il primo attacco. Pa, pa, ra, pam, ok, bravo, cioè. Poi non so il caricamento se posso farlo. Puoi salvare. Carica quelli dietro. Creiamo la breccia. No, il caricamento ti ricordi? Carica quelli dietro. Se ho almeno 3 metri. Carica quelli dietro. Sì, ma sono caso cavallo. Ce li hai. No. Ho pensato che è più carino se fai come quando invece di usare, fare un colpo con l'ascia, dai un colpo con lo scudo o con la tua testa. Quindi usi il. Cioè, secondo questo attacco extra. Ah no, l'attacco extra lo ce l'hai. È un martello da guerra con un D8. Cioè, un attacco default. E tu adesso ne hai fatto. No, l'attacco extra, scusami, dovuto al caricamento del montone. stavo dicendo, il primo attacco a questo extra dovuto all'uso. O dai una testata o dai un colpo di scudo, okay. Normalmente, oh, adesso sei a cavallo, vabbè. Che penso sia un D4, però hai sempre il modificatore di forza e di da aggiungere al tiro. Vai! Ok, ti senti carico con questa. Quindi c'è un motivo per cui noi ce ne siamo andati dalla compagnia. Sei fichi. Sì, no, torno in città. Torno in città. E chi tocca? A me sta ancora. E quindi quanto fa il, lo scudo? Mi sembra un D6. Ci vuoi guardare? No, scusa, il D6. Ok, sempre... No, solo il primo con vantaggio attacco in campo. Sì. Quindi questo non va. E 19 di grado di nuovo, quindi D6. Quindi più la forza e anche i danni dell'ira. Quindi più 6. Considera che sei un paio. Ah, quello di fianco. So. Okay. Se posso fare il caricamento, dimmi tu. Sì, sì. Hai caricato, in questo caso è più semplice di così. No, perché tu mi hai detto che quello extra posso fare facendo il caricamento tra un attacco e l'altro, o se ho caricato da quello che fa le... Differente. Io sono una cosa nera. È quello che fa la base. Poi faccio l'attacco extra. 18. Okay. 9. Okay. Questi lupi li spacchiamo, io li mangiare. Sta molto male, vero? No, non lo sarà a metà vita. A metà vita. Quack. Ok. Azione, evoco 8 lupi. Evochi 8 creature di quel... Evoco 8 lupi! Di quella classe. Ora chi sarà a combattere? Evochi 8 creature fatate. Avevo 8 quella classe. A forma di lupo. Voglio vedere mangiare quello. No. Tutto quello che ho mangiato prima. Un D8. Tiro? Un D8. Dario! 2. Evochi 2 lupi. Più. Come è rotto? Sì, però il gatto ti sta facendo una cosa strana. Evoco 2 lupi. No, è la, come funziona quell'incantesimo. Tu dici evoco 8 creature di quel CR e io ti dico che creature erano. Due lupi, poi gli altri? E poi gli altri li andiamo a scegliere nella valle dei mostri. Basta che mi evochi dei pesci che muoiono. Se li vuoi. Beh, c'è il fiume di sotto, ti va anche bene. Allora. Un quarto il CR. Sì. Un quarto. Quindi sono 8, di cui 2 sono lupi. Ne mancano 6. Un quarto. Oh, ci sono 2 serpenti crudeli. No, quelli che penseremo con i cavalli. Si cade però anche io. 2 boa. Ok. Costretto. No, è che ogni attacco che dobbiamo fare dobbiamo distinguere tutti gli animali. Se, no, se è una cosa è questa. Esatto. Di questa dire. Cosa. Ci sarà tempo per farmi ascoltare c'è tutta la discografia di 13. Pietro. Bene. Oggi non è mille occasioni, però sono due rigori. Finisce oggi il campionato. Gli altri sono cinghiali. Sì. Beh, va bene. Ci sono 4 cinghiali, 2 lupi, 2 serpenti. Beh, in realtà è figo. Solo, esatto. E come azione bonus diventa un orso. Solo non ti vedono i traditori. E poi mi muovo. Dove e li hai evocati? Cazzo, è uno zoo diventato. Ora loro sono su quelli davanti, no? Io evoco lo zoo. Jumanji dietro. Esatto, sembra una scena di Jumanji. Evoco Jumanji dietro e mi lancio come un orso sul terzo lupo davanti. Ok. Come un orso non è metaforico. E ruggisco. E si vede tipo il cavallo che diventa parte dell'equipaggiamento dell'orso. Quindi. Ah sì, è vero, come funziona il cavallo? È un orso a cavallo. Diventa la quando coda dell'orso. Quando diventa selvatica il mio equipaggiamento si fonde con me. Sì, ma il cavallo no. È bello, metà il corpo di cavallo tipo se io abbalancio giù e poi divento un orso lui diventa non credo ma che è un orso a cavallo no, suppongo scendo da cavallo quando divento un orso ci ammazzi il cavallo sì raga il cavallo che ti spiaggia non si può neanche essere a cavallo sinceramente strano come lo siamo tutti a cavallo ok vai, immagino agiscano il tuo prossimo turno no tutte le iniziative devi metterli quando sono tiro beh solo uno per tutti. In teoria hanno un'unica iniziativa, solo che lì catta vedi te perché. Perché a quanto pare. Però le libre hanno. Non sono vabbè, libre. Vabbè, comunque 17 di dado, ma qui devi aggiungere. Posso dirti la mia? Prendi la sua destrezza, è buona, vale per tutti. Se no impazzisci. No, sicuramente faccio un unico. Se no fai una media, insomma. Fare 8 lupi hanno più 20 massimi. Un cinghiale più 8 fai più 4. Quello... No, sapevo più no. Che ironia, volevo complicare l'incantesimo di Arci. E mi sono complicato le cose. No, vabbè, l'iniziativa una sola. Oppure addirittura col suo turno. No, allora fai il master la prossima volta. No, era per complicare meno la lista di iniziative. Cioè solo per quello. Tanto. Ma dato non unico. Le resti catta? Perché probabilmente sono primi. Dice un sacco di cose solo per quello. Cioè, anche i lupi hanno un'unica iniziativa, no? Quindi. Hai fatto 17. Magari in casualmente hanno fatto tutti come minimo gli danno 18. Certo. O un 13. 10. Paolo. No, non ho detto niente. Sono dopo i lupi, adesso, ma prima di Bardi. Sono dopo i lupi, ma prima di Bardi. Questo sì, vabbè, sono prima di noi. Cioè. Perché mezzo ho fatto il danno. No, tu 17 totale. Foto 17, tu quanto hai fatto? 17 di dado. Più 46. Bravo. No, ragazzi, basta più 63. Bravo, Arci. Quindi praticamente fatto l'incantesimo mentre i lupi erano lì che avvenne, vedono fare. Esatto. Come si confonde? Li riconosciamo i lupi invocati da lui? Non lo so. Sì, perché sono diversi. Sono lupi, normali, quelli sono lupi negri. Ah, ok. Soprattutto no, perché se no era divertente. Tiro una martellata. No, è mio. E soprattutto i lupi che vi hanno attaccato sono delle bestie, quelli che ha evocato lui sono dei non morti. Ah, giusto, è vero. Ah, io li evoco non morti. E per forza, le tutte le bestie evocate in questo mondo, Barovia, sono in aggiunta ai loro tipi normali, sono anche non morti. Ma quindi hanno delle qualità, no? Hanno gli attributi dei non morti. Beh, non è utile in questo caso. Beh, non voglio, lo scio è abbastanza utile. E tocca ai lupi. Quali? Quelli cattivi. I lupi cattivi. Quali? Quali? Perché vedo che la compagnia non è tutta dalla nostra parte. Occhio che magari chiude i lupi. Attenzione! Il Bologna! 3-0! Dai, sei diventato 13 Pietro! 13 Pietro! Dux! Dai! Eccolo Dux! Sono contento. Ah, ecco perché dici il Bologna, te, porcellino. Un lupo attacca il cavallo di Garrosh. No. Dai, suppongo tu fossi ancora a cavallo. Sì. L'ho visto. E lo mangio. Gli dà un bel morsicotto. A chi? Al cavallo. Eccolo, eccolo! E di nuovo lui! Qui ha le dove di Soletti. Vogliamo, cioè, bravo lui, però qui Sorrentino l'ha sorpreso. Si aspettava il pallone nel mezzo, invece non è in mezzo alle gambe. È passato tra lui e il pallone. Ha visto un bel film e viene tolto per punizione. Non ha coperto bene il pallone e quindi proverà a sbilanciare. Il cavallo. Io come reazione posso provare 20? A fare 13. Catta, cosa stai facendo? Chi tocca? Sta mordendo il mio cavallo. Tre ore che sta facendo questi lupi. Quanti attacchi hanno? 15. Siamo in. Noi siamo 3 più 6 animali. No, però no, gli altri non ci arrivano. No, adesso. Quanti animali ci sono tutti insieme? No, sono 8. No, questo è quello che avete davanti a voi. 3, 11 più 6 sono 17 personaggi da gestire. Quelli dietro non riescono ad attaccare. Quelli dietro hanno davanti lo zoo. Ma combattono i russi? Le merda dei coglioni. I russi. Ecco, sono sguainato le spade. Stanno aspettando l'inverno. I sovietici. Il tuo cavallo viene sbilanciato. Posso come reazione provare a stare in piedi o scendere insomma, senza cadere? Beh, no, cadi per terra. Non posso provare. No, basta. Cioè, se il cavallo viene sbilanciato, cadi e muori. Vabbè, ho capito, non posso provare io. Se sbilancio il pavimento, tu sei sul cavallo, che cavallo sul pavimento cadi. Vedi che servono i cavalli di riserva? Il secondo azzanna alla gola quello di Gandhi. Che non possono scappare perché sono presi in mezzo. Se già lo stavi pensando. Se già lo stavi pensando. Pin pin cavallino sotto i piedi del tavolino. Però è vero, portare più cavalli è anche ottimo come scudo. Vedi, stanno facendo attacchi. Il secondo stacca la testa al tuo cavallo. Sì! Lo chiamerò Giulio questo lupo. Il cavallo è vero. Quelli dietro attaccano lui ride perché lui sta in città per uccidere i cavalli. Che in realtà è Atana sta riuscendo da lupo. Uccide i cavalli. Stai mirando solo i cavalli. Avrei voluto riconoscerlo. Hai sentito, Bezza ha ragione, Arci. Questi lupi in realtà sono loro, partita, sono i nostri compagni travestiti da lupi. Ah, oh, basta che sia il Dux, lui è concentrato. L'ha tolto. Ha tolto Dux? Sì. Perché? Perché ha fatto gol, basta. Era uccidono... passato il ventennio. Uccidono un cinghiale o un lupo? Sì. Adesso vediamo. Il terzo manca. Che tocca, bravo. Loro. Ai miei, miei. Ai tuoi, tuoi. Carta, dimmi tu, però. L'unico lupo, vai con l'unico lupo. Allora. Vanno tutti su di uno. Lo stuprano. No, aspetta, magari non serve. Certo che serve. Il cinghiale. Allora, senso... il lupo ha vantaggio. Aspetta, perché... non ha più senso. Oh, che il mio turno chi lo gioca? Ah, scusa, occupali tutti. Focus sono scemo, si girano e vanno sul. Tanto scemo è bloccato terra sotto il cavallo, no? Sotto il cavallo, no? Beh, si è caduto terra rilanciato. Vai. Uno di noi. È nato dal sangue. Adesso rimaniamo solo noi. Vai, il lupo. Più 4 a colpire. Però vantaggio. Perché? Perché attacca con un alleato. Ah, boom! 18. Colpisce. Quando di 4 più 2. Uccide, uccide. Quindi è pure informato. Farai tutto. Perché neanche in un'altra campagna sì. Fa il druido che evoca sì. I lupi. 6 danni. Ok. Poi quanti sono i cinghiali? 3. Erano. Ah no, 4. È morto 1. Ah, quindi 6. Il cinghiale ha la carica, che non è questo il caso. Certo che è il caso, perché no? Certo che il allora, caso. Se si muove di almeno 20 piedi dritto. Si muove dritto verso il no, ma non hai piedi allo zampo, quindi fa un di 6 in più di danni. Lo fa. E se è una creatura deve fare la prova per non essere ma non sull'altro lupo allora loro sono un lupo ma non sì, quanto tre anno colpire di... ma scusa Sceo è più lontano prendi Sceo scusa Katta sono tre lupi no? Loro sono su di uno si faccio andare sull'altro non vanno non posso fare la carica. Bravo. Cosa cambia? Cambia che su un lupo quello che ha appena attaccato ci restano il lupo e i due serpenti e sui tre cinghiali vanno a focussare un altro e hanno tre cariche sì certo lo puoi fare Faccio questo. Ti sarà colpire. Ah! Ambilico. 13 dietro. 13 13 13 11. Mancato. Tutti e tre? Sì. Maiale Snake. Le bisce manca. Ah, le bisce, vero? Il boa. Sono su quello che il lupo ha già attaccato. Due boa, non sono due bisce. Vabbè. I due bigattini. I cavalli hanno paura dei serpenti. Ma puoi scegliere così, per me se mordere o fare il. Se mordere fare il cavallo. La presa. Grappling tipo. Constrict si chiama. Paura dei lupi. Quant'è? Qual è il quando al colpire la prima? I lupi sono tipo delle. Entrambi più 4 al colpire. Cioè in un colpo uccidono. Uno fai un di 6 più 2. Balete. E l'altro un di 8 più 2. Direi faccio Constrict. Ah, cosa tipo 50 punti ferita? Cioè, tipo, 2 sì. Che merda! Falliscono entrambe. Ok. Qui sai cosa devi dire? Porca boa. Vabbè, devi tenerli impegnati. Che Hardistron. Allora, noi scappiamo alla smetti, Vez. Hai la faccia nel fango dopo che il tuo cavallo è stato decapitato. No, hai detto quello di Sheo. No, era il tuo. Il mio è decapitato stato... è tuo. Lui il mio è solo caduto, però è ancora vivo. Il tuo è stato decapitato. Ah, il mio era caduto. Il tuo è stato decapitato. No, sei decapitato. Pensavo che avessi tirato giù il suo e poi l'avessi sbagliato su. Perché non l'ha fatto nel sangue del cavallo? Niente, mi alzo. Sono buono. Niente, mi alzo e bonus action. Questo qui che si chiama Branding Smite. Scusate, ma io? Che la prossima volta che colpisco faccio 2 di 6. Lui non ha attaccato da orso, però. Tocca dopo lui. Ah. Quindi faccio il mio attacco. No, dopo. 13! Merda, uno è 10 e l'altro è 17. Quindi colpisco solo con uno, penso. Con uno colpisco 17. 17 colpisce. E questo però farò. Ah, la sigla di Pingo e niente. Non puoi dire tutti idioti stuprare. Non lo so quello, no, perché l'incantesimo gli ho terminato. Ah, il long rest allora. Voi lo fate molto long tra un po'. Ma avete messo questa? È morto qualcosa l'Aveth? No. Sarebbe il suo verso. È morto? È esploso. Ma quando lo compri sto cazzo di computer? Guarda, lo scoprirò a mangio. È crashato? sarebbe questo. Guarda se si vede. No? Perché c'è la foto di una tetta di una capra? Per fortuna non siamo in diretta. Oh, sì. Dai, Vez, tocca a te. Aspetta, che sto guardando se siamo in diretta ancora. Ma tanto non si guarda nessuno. Sì, eh? In diretta. Sì, siamo in diretta. Sì, non so cosa stia succedendo. Quindi allora, aspetta. La gente in diretta vuole vedere i tuoi danni. In diretta sì, si vede Vez che controlla se è la diretta. Sì, è vero. 15, 19, 23, 27 danni. Oh, bravo, Vez. Hai vendicato il tuo cavallo. Però non l'ho ammazzato. Sì, era, immagino tu abbia colpito quello già ferito. Si sentiva pinguino da di qua. Ma uno vabbè, c'è il sotto il microfono. Vabbè, qui uno era stato va ferito. Va bene, va bene. Sì, sì. Ma cosa sta succedendo? Vai, Garrosh. Niente, mi alzo. Che no. Quindi è un... Scherzo. Quindi è un'azione. Immagino. Metà del tuo movimento. Ok. No, no. E poi immagino di avere un lupo praticamente addosso. Sì. Gli tiro una martellata in testa. Sempre attacco in calcio. 20 19 scusami 20 e 9 danni. Mi avrei fatto il critico con 19. Bravo. Poi faccio no, qui non so, l'attacco extra qui del caricamento di Reghi, no? Sì. Dipende se vuoi allontanarti per prenderla in corsa. È comunque l'attacco extra normale. Poi due attacchi nel tuo turno. Sì, però se riesco a farne 3 è meglio. Dipende se posso farlo, come siamo messi. Come sei messo, tu sei. Hai il tuo povero cavallo che, vabbè, anche lui. È vivo. Si rialza, sì, è ancora vivo, ferito, ma è vivo. Uh-huh. E hai davanti questo lupo, l'altro l'ha appena smaitato male. Vardistra. Sì. No, ma se mi allontano, becco l'attacco di opportunità. Sì, cioè, sei un barbaro, cosa stai se pensando? Lo faccio, mi allontano sì. E lo carico, becco l'attacco di opportunità. Sì, allora di pensare, tipico di... Okay. No problem. Ma qualcuno ha subito danni? No, sono i cavalli. Lui io adesso, aspetta. No, qualcuno la servitura, scusa. Di 18. Di 18 però hai vantaggio, ho provato attacco in capo. Ragione. Fallito. Sì, sono due. Non so perché... Sono 9 danni, quindi dimezzati, e fai una prova di forza, c'è di 13. Di 13? Di forza, easy. Uno. Alla quale tu hai credo anche vantaggio essendo in dimmi che ho vantaggio perché ho fatto 12. Guarda l'ira del barbaro se ti sì, dà vantaggio. Sì, vantaggio ah sì, è vero, bravo. Ah, sì, l'ante smart ovviamente lo passavo da nulla. Sì. Lo passavo. Ho più 7 in forza, ho fatto un 5 un 3 con i dati. Cadi prono. Hai un altro attacco se lo vuoi fare. Non da so perché tu non l'abbia fatto prima. Perché però. Hai avuto prono? Perché si voleva allontanare per prendere la rincorsa. Io pensavo che andasse collegato. Cioè. Mi ha beccato la mia aspetta, vita. L'attacco extra del caricamento non va attaccato per prima attacco. L'opportunità e la libertà. Sì, sì. No, scusa. Quello che io faccio col caricamento non va collegato al primo e poi l'attacco extra per forza dopo, no? Non c'è un ordine. Ah, vabbè. Anzi, di solito. No, puoi farlo nell'ordine che vuoi. Ah ok, vabbè, allora posso fare un attacco da prono? Sì, sai, svantaggio a colpire. Nice. Non ho paura. Anche da terra ti faccio male, no. 3 più 7, 10. Fuck. Attacco da lupo, cazzo, di vedere un attimo. Da orso, vedere l'orso bruno. Ma tu questi in inglese carta da dove le tiri fuori? Ah, posso dire io. Cosa hai detto, scusa? Ha detto che è il testo di una canzone. Gorilla gigante. Se indovinate la canzone, potrei dare l'inspiration se siete. Brown Bear! Ce l'ho già, non mi sforzo. 13 pietre, 5 colpi. Ho vantaggio io. 13 pietre. Perché c'è un lupo lì. Tu hai l'orso ha le tacche. No, cazzo, ti sto perculando. 20 comunque. 15 più 5, 20. E altro attacco. 16 più 5, 21. Questo no, forse. Totale sono 2 di 6, dammi 2 di 6. Se vuoi puoi darmi i valori in medi. Cazzo! Spero che faccia solo degli gran 1. Allora bam! 8, 6, 6! Puoi abbassare quello. 18 danni totale. Su, che potevo farne... Ah, ne è rimasto uno vivo. Beh, 4 più 4 gira. Ok, sì. Il cavallo di Garrosh si rialza abbastanza scosso. scappa. Effettivamente la... Con che parte però siamo circondati. No, ormai là c'è solo... Cioè, la minaccia più grossa dove siete voi è un orso, in realtà. Che effettivamente non è molto tranquillizzante per il cavallo. Si butta in acqua direttamente. Fammi una prova di... Tra l'altro Pat che si è trasformato in orso. Io? Sul cavallo. Sul cavallo. È sceso dal cavallo. No, è studiato orso e poi sceso dal cavallo. Vantaggio, svantaggio, sul per terra, lo svantaggio. No. Ah, sì, giusto. No, non sei andato! 3. Ok, cavallo. Oddio! Se ti tiene aggrappato ti trascina con lui. Col cazzo. No, se no. Attenzione, ci si è attaccato col cazzo. Oh, aggrappa. Numeri. No, no, non mi tengo aggrappato. Vai, cavallo. Vai. Ha fatto 4. Esatto, c'è il cazzo che frega. Sta a loro. Cioè, tanto sono un nano, al massimo vado a cavallo. Anche con se Benz. Prima. Con quale? Con quello decapitato. È vero? Forse l'unico cavallo vivo è il mio qua, eh? Pedone. Vabbè, anche quelli dei coglioni. Spalle. E delle... Oh, ma lei è il posto, gran figo guerriero fenomeno. Racconterò le storie. Cioè, non è che racconta la storia dei coglioni. La storia di come i miei compagni furono andare a prendere le sue. Faccio vedere la... Stanno giocando a 3-7. La scorciatoia, la chiamano la via dell'aggressione. La trappola per allora. Poi il pasto del lupo. Parte un raggio infuocato da uno dei suoi diti. Ok, va bene, bravo elfo. E ammazza l'altro cavallo. Colpisce. E per... ammazza tutti e tre, dice, vabbè. Cos'è ragazzi. Quell'orso? Esatto. È una bambina. Un orso, aiuto. Ma non certo quella bestia. E ci sono anche i serpenti. Schiacciami. Manca tipo un raggio in aria, noi vediamo. Esatto. Ora tocca a loro, vabbè, c'è no. Il lupetto che. E poi comincia a urlare. Sì. Strad, siamo allora qui, poi strad. No, okay. Tutti e sei hanno fatto un'iniziativa più alta. Sì. E come hai tirato un'iniziativa più alta? Ah, sì, ma tre sono già andati. Come i tuoi. Sì, esatto, quindi quello che rimane non ha neanche più vantaggi. Beh, uguale, dai. Perché da solo e manca male. Quindi niente. Oh, ora tocca all'esercito di Jumanji. No, tocca a quelli dietro che si stanno mangiando l'esercito di Jumanji. Adesso vediamo. Non abbiamo ucciso il terzo? Il famoso sì, Jumanji. No, il terzo è ancora lì, ma ha attaccato e ha mancato. Questa era bella. Anche perché non famoso Jumanji. Allora, uno degli altri tra dietro si mangia un altro cinghiale. Non più pesi, vabbè, digerire. No? Ah, sai cos'è? Che il cinghiale è buono, cazzo, lo mangerei anch'io. Quindi l'altro no. Manca. Ma se quando muoiono, sono tre comunque, cazzo, non sta tirando. Quando muoiono, spariscono. Questo è il terzo, hanno vantaggio. Fa critico. Quando... Loro sì che hanno vantaggio. Quando muoiono, spariscono i suoi animali evocati. Sì. No, comunque hanno vantaggio solo se sono insieme. Perché la carne di sono insieme. Il primo che era da solo non l'aveva. Eh no, comunque scusami, Katta, io con i tre cinghiali ho attaccato uno che hanno chargiato un lupo. E invece il lupo e le due vipere erano sull'altro, quindi non possono avere vantaggi questi due, sono separati. Infatti no, se non è un gruppo da tre è un gruppo da uno. No, lui sta dicendo che quelli da tre non possono essere, non possono avere vantaggio perché non siano sullo stesso bersaglio. Basta che non importa che siano sullo stesso bersaglio. Basta che ci sia un loro alleato entro 5 piedi da quello che stanno attaccando. Ah, 5 piedi non è un quadretto. Sì. Basta che ne siano con un quadretto adiacente. Allora scusate, io ho potuto fare la charge però dei cinghiali per andare dall'altro lupo che mi sono mosso di 20 piedi, non possono essere 5 piedi. Ma dipende tra da che loro, parte che giro hai fatto e da loro. Che parte sei arrivato. Cioè se i tuoi sono intorno e loro sono al centro, tra di loro ce l'hanno l'alleato. No, e il terzo si mangia un boa. Vai. Cosa mi è rimasto? So, devi tenere tu il conto. 1-1-1 non dire così. È rimasto un lupo, un lupo, no, due cinghiali. Erano tre, ne ha mangiati due, no? No, erano quattro. Erano quattro inizialmente. C'ho due cinghiali, un lupo e un boa, giusto? Allora, il lupo e il boa erano sullo stesso. Esatto. Quindi, vantaggio, doppio 19. Colpito. Fanno 2, 3, 5 danni. E invece il boa 7 di dado Sì, aveva più 4. Cioè dovrebbe avere tipo più... E invece due cinghiali... Caricano. Tornano sull'altro caricando. Quindi se uno si prende un attacco dopo... Ah, no, no. Tornano sull'altro, invece su quello su cui sono. Tornano nel senso... e attaccano normalmente. Che bella dialettica. quanto hanno più? Di cinghiale? Più 5, più 4. Boar. Più 15. Se ricordo bene, più 3. Boar. Più 3. Quindi 6 più 1. Ora 17. Colpisce solo 17 e fa un 6 più 1 che... Oh, boom! 7 danni. Ah, un altro rispetto a quello di prima. Sì. Ok. Bardistran. Quindi è rimasto il lupo lì. È rimasto il lupo molto ferito e sanguinante. Vai, dacci. Antes Marte, lo sposto di più. Che schifo. Ha qualche amico, penso, da stringersi con le ginocchia. Allora, tu non lo faccio 19 e con l'altro 18. Beh, direi che l'hai colpito. Vediamo un po'. C'è Gohan che non si corregge. Fagulo, fagulo. Peccato, ho peggiorato. E 12, 13 più 4, 17 col primo attacco. Muore. Quindi niente. E non ci sono altri lupi lì. Lì li avete finiti. E allora. Niente, non posso fare l'altro attacco. C'è il cavallo? No. Sì. Però posso fare un animal handling su un altro cavallo per saltare su? No, perché è un'azione. Lì c'è la carcassa del tuo e quello di Sceo che è scappato. Non ci sono quelli di riserva, non li hai presi. Puoi fare animal handling sul cavallo di Sceo. Puoi fare animal handling sul cavallo di Sceo per vedere se è morto veramente. No, no, io è vivo ed è scappato. Scusa, sì, è più vivo del capitano. Puoi provare a recuperare il cavallo di Sceo. È scappato, come lo recupero? Correndo lì dietro. È ancora tu sai come finirà? Vuoi saperlo? Che dovremmo tornare in città a piedi. A piedi. No, sono gli altri coglioni, li cavalcheremo con loro. Pensavo andarne a piedi loro. Se Bardistran non fa altro, Garrosh. Mi alzo e... No, anzi no, scusami, ho un altro attacco. Posso prepararlo se mi arriva uno addosso? No. Perché preparare è un'azione, quindi la tua azione è già usata per l'azione d'attacco. Allora ciao. Mi alzo, mi ha attaccato la prima creatura vivente. Sempre uno addosso. Sono morti i lupi. Ci sono solo i lupi dietro. Ragazzi, sì, tra davanti abbiamo stuprati, sono rimasti quelli dietro. Uno che mi mangia i cinghiali, l'altro con i serpenti. Tutti e tre quelli dietro ci sono ancora. Belli pasciuti, sì. Vado addosso a quelli dietro caricando. Ah. Beh sì, mezzo movimento ce l'ho ancora. Non so quanto distanza. Hai usato metà del tuo movimento per alzarmi. Quindi non ci arrivi con un movimento normale. Ma? Sicuro? Ho un movimento veloce io, 35 piedi al mio movimento. E metà li hai usati per rialzarti, quanti ne rimangono? 17. 17 e mezzo, non so. Ok, quindi con un movimento normale non ci arrivi, però... Faccio il doppio movimento, però a quel punto non posso più fare niente. No, arriva il tuo attacco bonus e la carica. Ma quello lo faccio solo... Ma tu mi hai detto che... Aspetta, non ci siamo capiti. Sul caricamento. Questa cosa del personaggio. No, è l'attacco. No, l'attacco extra del caricamento è un attacco extra se faccio il primo attacco. Quando faccio l'azione attacca. È un attacco quando la carica. La carica. Vabbè, ci riguardiamo dopo. Tu se vuoi caricarli, caricali e fai un attacco bonus usando. In teoria sì, però avevi detto che. Vabbè, comunque attacco incauto. È il primo che ha rifiuto un attacco. Ah, aspetta, ecco, incauto è un'azione bonus, mi sa. Quindi. O fai no. Quello o fai... No, credo che sia un attacco bonus anche non quello. Penso. Vabbè, allora non lo faccio. È un attacco normale. E dopo si prepara Pact. 25. Colpito. 13. E fa 12. Considero che ho fatto uno di dado. Cosa stai facendo? Scusa, con che state combattendo? Io con dall'altra parte. Ma fanno avere più 11. Non fai avere più 11 danni. Come dai lupi dall'altra parte? Più 4 fatto del martello, più 2 dell'ira, più 5 perché è il famoso attacco extra del caricamento. Come ho fatto ad arrivarci dall'altra parte? Sì, rotolando verso sud. Correndo? Scusami, quanti sono da dove? Sono lontani? Beh, sono 30 avanti e dietro. Conto che ci siano 40 piedi tra quelli davanti e quelli dietro. una quarantina di piedi. Cazzo, non è un ponte, ho usato, non è un ponte, ho di capito, 6 km, ho usato due azioni di movimento. Ha detto che un'azione arrivava, un'azione completa arrivavano. Noi siamo andati in un'azione avanti e gli altri sono rimasti dietro. Infatti io ho fatto due azioni di movimento. Capito, lui non è un cavallo, né un lupo. Però strisce, però è un montone. Però movimento veloce. Cosa fai? Io mi giro e vado sul lupo che sto attaccando con i lupi e i serpenti. L'orso si muove di? E... Cata, c'è lì. A 9. Ah no, 12, si muove di 12, scalare 9 metri. Che in piedi sono? Perché non c'è? 40, lo uso 30 convenzione, a scalare. Convenzione bonus, ti ricordi? 40. 60 piedi. Ah, Brown Bear. Brown Bear. Sì, è l'azione bonus. 40 piedi, indipendente dall'attacco. Primo attacco! 19 di dado. Vediamo se minaccio per il critico. Scherzo, secondo attacco. E 15 di dado. 20. Colpito. 15, 2 di 6, più 1 di 8. Più 8. 6, 7, 9, più 8. 15. 9 più 8 fa 15. Scherzo, 17. Volevo dire un numero più alto, poi c'è sparato a cazzo. Sono confuso. Su chi hai detto? Sul cavallo di... Orso è confuso. Orso, no, è così lupo, confuso. Sul lupo che ho attaccato già col lupo e i serpenti. Sul lupo che ho attaccato col lupo? Che dovrebbe essere questo. 12 hai detto. Quindi 17. 12. Abbassiamo sempre di okay. più. Vediamo Casimiro cosa fa. Colpisce Kevin. Sta attaccando il terzo lupo con le dita di fuoco, con Firebolt. Tu. Perché se il bar sta ancora vivo? Non ti colpiscono lupi che non ti dà poca vita. Su dall'altra parte. Sì, ma nessuno ti ha attaccato. Sono limitati a mangiare tutti i okay. Sbrucciacchia un po' il lupo. E loro in tutta risposta vedono il piatto forte che è arrivato al pranzo, alla cena anzi. Il montone? No, l'orso. Sì, tutti su di me. Il primo ti manca. Su Camilla Radio, questo mi corazon. Quanto anni ti assegna la cura? Addirittura 11. Questi sono solo 6 che manca. Il secondo ti colpisce. Sì, come fa a capire mica cosa sono 11. Mi ha 19 di dato. Vabbè, da orso. Boh, ce l'ho qui. È impossibile non prenderti qui. Sono 8 danni. Giulio! Sono stati i punti di vita. Non sei scusato. Ho fatto un danno. Si era straniato. 8 danni. E 9, il terzo ti fanno 9 danni. Ti togli dai 34 dell'orso. 17 quindi. Guardi, strano. Che 17, no, 34 dell'orso. Ma quanto sono da devo 40 tirare piedi. Per la concentrazione? Eh? 40. 40 piedi. Superata. Non è vero. È perché sennò perdevo i movimenti. Allora avanzo di 10 piedi. E sparo con l'arco. Ok. Dururu, dun dun dun. Faccio due tiri, che cosa? Sì. 60 di nano. Ti passa di togliere sì, quello lo fa. 34 dell'orso. Sono 60 da nano e 34 di orso. Devi toglierli dall'orso. E... sono? Comunque sì, una azione bonus di caricamento. Quindi indipendente dal primo attacco, come sbagliavo io. Invece l'attacco incauto dice quando fai il tuo primo attacco del tuo turno scegli. Non dice se non commento fosse pronto. Allora, no, a 20 perché Giulia ha fatto no, una donazione da nano a 20. Quindi non usare un attacco strano nel tuo turno. Per questo vorrei andare a parlare di nuovo strano. Attacco incauto il primo. 20. Io avevo 17, 19, 15 di punteggio, più 2 di nano 17, col quarto ho preso il talento e poi ti ho regalato danni. Mio buon azione. Messo male ma ancora vivo. Ok, gli faccio l'attacco extra. Oddio. 14 per colpire. 13 colpire. Oh, lo so tirare il mezzo sul tavolo. Continuare un labio. 11 e danni, muore. Sì, e poi posso fare come azione bonus l'attacco extra del caricamento su quello di piano. Non riesci a fare 20 piedi, sono tutti lì uno di fianco all'altro. Sulle bottiglie. Torno indietro, tanto non becco l'attacco di opportunità perché è morto, poi carico. È imbilichissimo, direi. Viene meno. Oh! Ti cazzo con l'attacco extra. Quindi, tiro 2 di 6. Ho scritto, non ho cagato. Ah, è vero, perché è 6. Hai ragione. Tiro 2 di 6. E cosa raddoppio? Solo i dadi? Solo i dadi. No, come? Il critico raddoppio solo i dadi. Aspetti, va dell'altro robo. Sì, neanche mai detto un cazzo. 9 più 11, 20. Ok. Esplode. Dai una bella botta, ma è ancora in piedi. Esplode, esplode, dai. Non ancora. Dai, esplode. Come pack tutte le mie creature? Le ho saltate. Beh, insomma, se è brutto tempo, sabato andiamo a tirare l'antropologia. Ovvio. Come no. Due turni? No, no, l'ho fatto fare anche lui. Un turno, un turno. Sì. Cioè, due turni, nel senso, Bardi strana okay. Lui. Beh, allora faccio prima le creature, dai. Il mio lupo, che ha vantaggio. Boh, a me no, non da... Becca. 2. 5 più 2, 7 danni. Muore. Ok. Poi allora io... Il tuo lupo muore. Sì, sì, poi ho i due serpenti che a sto punto vanno su. Un serpente stato mandato. Oh, che va su l'ultimo che arriva. Sull'ultimo lupo. Metti proprio pioggia lì. Bilico. 15 di dado. Becca. Un di 8 più 2. 10 danni. È pure basso, però. E poi quanti cinghiali ho? 2, no? Mi sembra di sì. I due cinghiali. Che si colpiscono da solo. Dice che piove di no. E poi tocca a te. E di giorno 15 gradi, quasi un nuvoloso, dai. Siediti sul lupo. 13. Ho dei bonus io con il fatto che ci sono in corpo a corpo con gli altri, un più niente. Ah, yeah. Niente. Questo sì. Che fa un di 8 più 4. Un di 8 più 4. Sì, che la seconda parte della terra. 7 danni. E rimango sotto. Sbranato il lupo. Bene. Casimir si guarda intorno e dice: sembra ci sia andata bene, presto dobbiamo muoverci. Io rimango orso, così lascio il cavallo a uno dei due. Ok, beh, possiamo cavalcare insieme. Da un orso. In teoria ne avete tutti quelli che vi servono. Ah, sì, solo uno. Il mio non so dov'è. Andate a recuperare con gli altri cavalli. Ok, se riusciamo a recuperarlo in fretta, se no non perdo tempo e vado con lui. Prima o poi lo ritroverete. Prendi su. Te lo lascia, rimane orso. Ma già Casimir in teoria. Scusa, ma qualcuno cavalchi l'orso? Cavalcava con qualcuno. Perché? Perché se non avete preso un cavallo anche per lui. È vero. Ah, se dobbiamo prendere dei cavalli di riserva. I fratellini che cavalcavano con un cavallo. Ma non che adesso cavalcare l'orso. Effettivamente. Gli altri 10 minuti faccio il mio rigoletto. Non c'è tempo, dobbiamo scappare. Ah, vabbè, se riusciamo a adesso non c'è tempo. Se riusciamo non c'era tempo. Ho detto che ti serve tempo, non c'è tempo. Se riusciamo in tempo. Tipo 3 minuti a recuperare il mio cavallo, bene, se no cavalco con qualcuno. Non c'è tempo. Con gli altri cavalli lo raggiungete. Andiamo su. Quindi tutti cavalchiamo e lui davanti. E andate verso. Voi altri, mentre state tornando, tra l'altro voi tre, perché a quanto pare con voi c'è anche Sallo. C'è anche Sallo. Ipster. Vedete un piccolo lupacchiotto che vi attraversa la strada. Oh. E si ferma a guardarvi. Cosa e diventa vostro amico. Cioè loro hanno un lupo che lo guarda, noi sei che ci attaccano. Uguale. Ignoriamo, andiamo. Sprugniamo i cavalli verso la città. Sì. Quindi passate attraverso. Attraverso, lo evitiamo, lo schiacciamo appositamente. E chiaramente lo spia distratto. Quello era palese. Beh, anche fosse, no, come tutti gli altri. Salutalo tutto allora. È una spia di strada, anche i muri ormai. Anche le strade. Cioè, praticamente tutto questo mondo vuole che Irina vada con lui. Non capisco perché. No. Non c'è uno che dica no. Cioè, anzi, uno c'è. E ce l'abbiamo noi. Suo fratello. Ah sì, tu. Giusto. L'elfo avrebbe lapidato, quindi non gliene frega niente. Mentre lo state per sorpassare, muta forma, diventa un lupo mannaro e salta in sella. Ha tirato un dado. Che palle. Oh, chi fa. Dai, tira, che dai. Che ci sta attaccando? Sono noi due. Cazzo, però lupo mannaro siamo in due. Pari o dispari, dai. Beh, tecnicamente sono dispari. Dispari. Dispari. Allora. Tirate l'iniziativa. Vabbè. Anzi, per te così. Tanto adesso giochi tu la tua scena. 6. Ah, sta venendo attaccato. 1. Vabbè, più 1. Sta venendo attaccato. Io sono 3. No? 6 e 3. Ah, io meno 1. Sono ristirati. Non è che... Posso andare molto... Solo uno. Siamo attaccati alla città, cazzo. C'è quello che ha da vedere. Non è più un posto sicuro, evidentemente. Quella che aveva raccontato che abbiamo un problema con i lupi che ci infestano le foreste. Quindi un lupo mannaro, uno solo però. Ma che gli animali... Vaffanculo, lupo mannaro, siamo in due. Aspetta. Tranquillo. E anche voi sareste stati allora in sei. Quanti hanno combattuto? Beh, l'elfo ci ha parlato, ha lanciato un raggio verso il cielo e basta. È tutto quello che ha fatto. A parte io ho 24 punti ferita. Poi alla fine cosa ha detto? Ce la siamo cavata. Cioè lui non ha fatto niente, anche tu è andato bene. Cioè io ho 24 punti ferita. Cazzo. Com'è bello tornare in giro. Cosa? Ah, che bel con voi. Sì, era l'unica da dire. Era veramente l'unica. Io spero che io gli dico, guarda, stiamo andando a parlare con Strada. Ah, c'è un like. Lui dice falso. Lui dice bau. Like. Cosa? Cioè, mica spagnolo che mi sono like. Uno, ti ho preso tre foto, c'è cioè, tre like. Sì, su, ma quando la conosco gli do il like. Io ne voglio un'altra su World Wide Bonazzi. Ci stai, posso vedere l'altra foto? Io ho guardato un po' quella pagina. Allora. Sei il meno imbarazzato, cioè sei il più normale. Okay, gli altri sono molto imbarazzati. World Wide uno Bonazzi. Con il suo morso e uno con i suoi artigli. Direi che per prima prova a dare una assaggio. Non so cos'è World Wide Bonazzi. Cos'è? È una pagina Instagram. Ah, no, nel senso... La seguo, scusami. No, ti faccio vedere perché dovresti seguire. Capisce? È una compagna di classe di mia sorella. Posso vedere? Sì, però scusami. C'è un motivo. C'è le manine bagnate. So che può sembrare una cosa che io guardo. Ma è questa. Posso vedere? È il mio cellulare. Te le voglio vedere. Non la troverò mai. E poi prova a dargli un artigliato. Perché vedi, in mezzo a tutti... Scusa. Ah, aspetta, Lazo. Lupi mannari, ti ricorda qualcosa? Manca il cavallo sulla pagina World Wide Bonazzi. Non cioè, scusa, lui con gli attacchi cosa fa? Non ci sono messo il cavallo. Immagino. Ah, non l'ha ancora ucciso? Cosa? Cioè, che cavalli è? Lo uccido io? Guarda, si fa così. Non lo so, chi ti ama. Cioè, è una pagina, posso dirlo, imbarazzante. Tu non vedi. Non sono belli. Sarà una pagina di Frocide. Sì, lo immagino. C'è una roba veramente... C'è dell'imbarazzo in questa pagina. Ma sono tutto morte. È veramente imbarazzante. Di queste 45 anni. Ah, non esiste allora. Sono una creatura vera. Se rimuovi maledizione, non trasformi in un umano. Allora no. Avevo capito tutte. Non penso che l'abbia preso rimuovo maledizione. Non mi piacciono. Ma infatti magari adesso ci facciamo mordere. Così diventiamo dei lupi mannari. Allora, vabbè, facciamo molto presto. Stai guardando Santa Clarita. Comunque, faccio so che c'è nelle cose da vedere, okay. Per un po' di sentino verità. Allora, qua era... Comunque avete sentito l'ultima che ha detto. Potremmo farci morte. È un lupo mannaro. Di nuovo. Sì. Per interrompere sono anche tanti, perché sono 6 di 6. Sì, è vero, stasera? Oh! La cugina? Mi sa che è in viaggio, tipo. Ho capito, ma ci scrive lo stesso, cos'è questo nostro trattamento? 1, 2, scrive. 3, let's chiamala. 4. Questi però sono doppi, radianti. No, è doppio perché è critico. No, sono anche di è più per... critico? Sì. Vedi, no, che sono ma... il bravo, mio. Bravo, sì, capito adesso. Ma fatto, cioè, quel dado ha fatto due critici a distanza breve. Mica, bravo. 6, 7, 10, 13, 19, 20. Bravo, anche lei è molto carina. E adesso sbarluccica. Giusto. Hai vantaggio. Hai vantaggio. Oh, tiro fuori la spada corta d'argento. Finalmente. Non provi davvero. Sono d'avanzare del mulino, certo. No. Perché lo provi davvero a convincere? E con i cavalli di riserva. Se vuoi convincere che è un lupo. È un animale. Deve essere figo. Ehi tu, stiamo andando da Strada, scordaci. Io adesso ho due attacchi. Sono morto comunque. Mi dispiace. I due attacchi con la spada corta. Critico e... Guarda subito come aizza le antenne. Grande. Quindi è un D6. Ho capito, questo ho fatto critico anche lui. Ha fatto due critici. Giulio? Tutte e due ha fatto critico. Ah, oh. Si vede che fare le 4, 6, 7. 7, 8, 9, 10, 11 danni con la spada d'argento. Mm-hmm. E okay. Poi... Ma quanto vi state combattendo voi due? Un lupo mannaro. Un lupo mannaro solo? Sì, ma il mannaro. Cioè, è più forte di voi. Lui ma è uno. Lui ha 24. E noi siamo in due. Appunto. Ma lui due volte... Siete in tre, hai convinto il tuo amico a venire con due te. Due volte andare a riposarmi da qualche parte. No, beh, se abbiamo se siamo un bersaglio solo... No, in teoria non abbiamo fatto neanche un riposo breve, non abbiamo neanche più un mannaro. Race lo prova a colpire, ma manca. Ah, cioè pure gioca Race. Ma è lì che mi faccio fare qualcosa. Sì, che falso, che schifo. Credo che abbia mancato senza tirare il dado. Intanto sente le presenze. C'è qualcuno. Al massimo sono 20 poliziotti, forse. Se la prende ovviamente con te che gli hai appena... Oh, dai! Dato una padellata. Uccidetelo. Uccidilo. Uccidilo. Critico. Critico. Oh, 18 di fatto. Vediamo se ti prende con il morso. 24. Classe armatura. 18. Ti manca con entrambi e vabbè. Dai, cazzo, ma sei il master, ritirateli. Colpisci, colpisci. Aspetta, ma io avevo vantaggio sul primo o su tutti? Sul primo. Purtroppo ormai il tempo è andato. 18. Loro sono a cavallo o sono a piedi? Uguale a prima. Sono a fuoco. Guarda che falso, loro i cavalli gli lasci proprio. No, loro sono a cavallo. No, il lupo ha provato a uccidere. Lo stava sbranando, ma gli è arrivato un ceffone da... Ho fatto una cazzata prima, era critico, i 6 di 6 erano di base. Ah, 6 di 6 è... Tira in altri 6. Peccato. Sembravano un po' pochi. Ricordavo che era 3 di 6 Guiding Bolt. No, è un 4 di 6, ma l'ho fatto di livello 3. Quindi era 6 di 6. Sì. Sei sicuro che posso farlo direttamente al terzo? Sì, l'ho detto prima di tirare. No, dico sicuro che lo faccio direttamente dal 2 al 3. C'è scritto 4 di 6 puoi lanciarlo un di 6 ogni livello aggiunto. Ogni livello aggiunto. Uno, però ad esempio tipo io quello degli animali posso fare 3-4, ma adesso 7, 10, 16, 22, 25. 25 quello di prima. Invece di? No, 25 è quello di adesso. 5, 7, 8, 11, no, non in più, 16 e 22, e altri 22 adesso. Ma no, 5 è giù, no. 25 era il gioco di prima. Se, no, è 20 guarda che 25. Se facevamo sta cosa qui contro Radi, abbattevamo Radi. Però sì, ho finito l'incantesimo. So. Lui viene sbalzato via dal cavallo e... Ha fatto meno fatica loro con un mannaro che noi con dei lupi normali. Sì, beh, abbiamo fatto due critici. Cioè, perché se non abbiamo perso una di vita. Vabbè, noi non ci ha toccato. Infatti. Purtroppo. Bene. L'unica volta che volevano essere... Ma se noi adesso prendiamo la testa del lupo e ci feriamo. No. Ma va bene, il se beviamo il sangue... Ma va bene, il cavallo è ferito, ma è ancora in piedi. Cavallo mannaro. Esatto. Se beviamo il sangue, se beviamo il sangue del lupo mannaro, fallo. Dice un il bersaglio è un umanoide, il cavallo non è umanoide. Ma se beviamo il sangue del lupo mannaro non funziona. Possiamo prenderlo però. Anche perché è una maledizione. Possiamo prenderlo. Tocca a lui. Il sangue. Potete prenderlo se vi fermate lì e spargete. No, andiamo via. No, vabbè, io ho i ganci, lo aggancio e me lo tiro. Cioè, ritorni in città dopo tutto il casino con un mannaro attaccato dietro. Metti sì, lì anche, che rimane, perché sono metti anche delle lattine vuote. Din, din, din, din, din, non fa rumore la trascinare un lupo mannaro morto. Però fa un po' di scena. Anche perché ritorna alla sua forma. E chi era? Originale. Ah, quindi trascini una persona. Quando me ne accorgo mi fa un po' schifo. Lo abbandono. E ritornate in città, la pioggia scroscia sulle vostri cappucci, immagino, siete incappucciati. Sì, direi che abbiamo il mantello nel viaggio. Basta di sostenere la pioggia. Il portone della città è aperto e non c'è nessuno a guardarlo. Entrate nella città. In teoria mi voglio dirigere dalla, ci vogliamo dalla casa della... No? Ma tanto abbiamo tutte e due di svantaggio su qualsiasi stat, quindi tanto vale. No, giusto? Ah, boh, no. I vestiti in faccia. Cioè, forse Sala lo farebbe. I vestiti in faccia. Non farsi vedere. Turbante enorme. Ma non attiriamo l'attenzione. Magari Sala lo farebbe, forse, no, però. Sempre. Magari può truccarsi lui. Chiedete a Sala di truccarmi. Però direi di andare. Piccato per sì, andiamo a dormire. Dipende se le intenzioni voglio recuperare l'incantesimo. Andiamo a dormire. Cos'è? È niente, la diretta. Ma diretta alle 8! Vabbè. Andiamo dalla vecchia. Ok, arrivate per strada. Andiamo a dormire. Non c'è. Andiamo a dormire a casa della vecchia. Ah, ok. Per strada non c'è nessuno. Nessuno, non c'è un'anima viva. Deserto, non c'è. Devi uccidere qualcuno. Ah, non sei capitano. Poi lì va là che ve l'ho dato. Siamo per qua. Infatti. No, non ce l'abbiamo. È qua. Poi dovete perdere. Ecco. La vecchia. Che io. Ah, stai guardando la diretta? No, perché avevo toccato un filo ed era diventato nero, poi è tornato e... Beh, il filo è rimasto nero. Però sì, non c'è tantissima differenza tra... Vabbè, la grigia. No, questo è il barone. La vecchia. Vabbè, arriva, andiamo a casa della vecchia. Sì, stiamo andando a casa della vecchia per dormire. Me lo sa lui. Qua. No, avete giocato fino adesso? Solo perché noi l'abbiamo finito presto, il nostro mostro, non è che... No, si fa turni, ora sta lui. Poi vado a dormire e boh. Ciao. È arrivato a casa della vecchia. Sì. Il Tresigallo. Ma per strada si gira. No, c'è strada solo nel deserto. È Tresigallo, quelli da parte. Tresigallo, non c'è nessuno per strada. È Tresigallo. Oggi ho fatto. Chiamo fuori la divacca. Oggi è andato al cimitero. Lady Vattar, siamo tornati per riscuotere la nostra cosa ricompensa. Cosa prego, un po' di relax. Fare le foto? Veramente? Sì, le tue parole riecheggiano in questo. Ah, perché io c'ho due giocatori di il naturale silenzio interno. Questo ve lo dà lo scroscio del. Sei andato veramente al cimitero? Quello che ha fatto ideato l'Agro Puntino, che è sepolto lì perché lui è di Tresigallo. E dopo qualche secondo vedete aprirsi lo spioncino della porta. Intuite che sia dal taglio degli occhi quello di un uomo, probabilmente il suo tirapiedi, quello che avevate visto quando siete venuti lì la prima volta. Devono avere veramente tanti da tirare. Ok, va bene, cioè. Chi va là? Ti tremo un piede addosso. Come ho detto, siamo venuti a riscuotere. Izek è morto, il barone è caduto. Siamo venuti a riscuotere quanto pattuito. Il suo sguardo si è basito e poi capisce il senso delle tue parole e dice: aspettate un attimo. Ma qua sponcino. Piove. No, vabbè. C'è un comodo. Come si chiama? C'è un piede che ci copriamo un piede. Si chiude lo sponcino e sentite i suoi passi che vanno dentro la casa. E passa dopo un minuto. Non resta. Date il tempo di prepararsi, povera donna. Vi apre la porta Lady Vactor in persona. Entrate, prego. In maniera molto servile. Torneremo in città che non sono i padroni di tutto. Io entro. Dovremo anche inginocchiarci davanti a loro. Entriamo. Okay. Entrate dentro, la casa era come ve la ricordate, Civil War, dice, ho detto alla servitù di farvi portare qualche cosa di caldo, spero possiate apprezzato. Oppure ammazzano le divacche. Prego, accomodatevi, raccontatemi tutto. Non c'è molto da raccontare. Il barone è caduto, la città è vostra. Il barone è caduto. Anche stando alle parole di Lord Strahd. Dovresti dire il barone è letteralmente caduto. Che falso. Non avete avuto le notizie? Ho ricevuto una visita inaspettata. Questa lo so, la di prima. È venuto qui questa notte, poco prima che voi arrivaste. Sì, l'abbiamo incontrato anche noi. Mi ha detto di tirare fuori il mio abito più bello perché mi ha invitato al suo matrimonio, ma non ci potevo credere. Una notizia del genere. Adesso aspetta che ha detto che il conte è andato a trovarla e ha invitato al matrimonio. Sul matrimonio del conte dovremmo parlare col conte perché potrebbero esserci stati degli intoppi. Possiamo finire che il compagno l'ha rapita. Proprio in questo momento non vorrei mai che la sua sacra imperscrutabilità venisse interrotta da tanto qua siamo al sicuro, le reliquie la sanno, no? Con lui. Ok, perfetto. Scappiamo nella chiesa, funziona. Sì, funzionano solo nella chiesa. Vabbè. Ma loro non la sanno. Non sappiamo che lui, però io magari forse, se lo potrebbe no, dire. No, io forse ero rimasto che ne aveva una, non che le abbia tutte. No, le tutte. Ha preso il secondo. Sì, no, che cioè come giocatore lo sanno. Ma poi tu non sai che funzionano solo in chiesa. Sì, lo sappiamo tutti perché l'ha detto lui, come paladino a tutti noi, più volte. Ma non sapete che ho detto io? Che le reliquie funzionavano solo in chiesa. Sì, ma lo sai che dice la verità. Quindi sai sono dovuto per riportarli a ribaggio. Certo. Se l'era scordato forse. Ci siamo scordati. Padre Lucio, perdonaci. Da quanto se n'è andato Lord Trad? Venendo qui... È qua dietro. Sì, siete passati davanti alla chiesa. Sì. Un momento imbarazzante, è dietro di me. Vero? Era mi risparmia un viaggio. Era completamente chiusa e non c'erano luci all'interno. Vabbè. E quindi dice, oddio, proprio in questo momento spero che nulla disturbi la quiete che abbiamo faticosamente conquistato. No, dovrà solo attendere qualche giorno. Tempo in più rispetto all'eternità, non è nulla. Spero sia come dice lei, comunque non vorrei mai essere nella persona che glielo andrà a riferire. Lui. Comunque mi dicevate di Izek, l'avete ucciso davvero? Sì. Quel mostro, finalmente. Non avete visto l'incendio? Non ho guardato fuori di casa, c'era tempo da lui. Vabbè. Sì, tra l'altro sarà spento se piove di brutto. Sì, ma all'inizio no. Quindi. Sarà una fumata incredibile. Sarei aspettato di sentire almeno le grida delle guardie, ma non si è sentito. Sì, è stata una cosa. I nitriti dei cavalli che sono rimasti lì. È stata una cosa che, è scalata. Oh no. E i nitrati. Molto velocemente. La prego, non mi dica che è stato sparso del sangue degli innocenti. No, nessuno innocente, non mi risulta. Il giorno prima, giuro che bambini. Che finisca innocente. No, non ho mai ucciso un bambino. La moglie del barone. Cioè, magari sono stato causa, non l'ho fatto apposta. Sono mangiato un pezzo. Chi di voi ha assaggiato i dolcetti delle streghe? Cosa? Tu hai assaggiato i dolcetti delle streghe? Sei stato l'unico ad averli assaggiato. Io l'ho preso, non l'ho assaggiato. Non hai assaggiato? Nessuno di noi ha assaggiato. Appena ho scoperto che te la della droga, al contrario vostro, non ci sono finito a capofitto. Ho cominciato a venderla e a usarla per rubare l'armatura. Tutti ad Amsterdam. Ah, tra l'altro, scusa, la Lady Vaktar non vede che io ho la plate del barone addosso. Immagino tu avessi il mantello che ti copriva, però sì, ma il se fai così quando dici quando mi tolgo in casa, scusa, me lo tolgo se bagno tutto il divano, mi sembra. Quando dico mantello del barone intendo la pelle del barone. Mi sembra mi sembra che ti vede alla luce che la sua maschera e la sua faccia una luce più intensa. Quell'armatura l'avevo già vista da qualche parte. Sì, mi è stata donata. È caduta dal cielo. Il suo vecchio possessore non aveva nulla in contrario che la prendessi ormai. Bene. io do la parola per ringraziarvi del vostro coraggio e del vostro amore per la libertà. E quindi onorerò il mio patto. E il mio patto. Vi donerò questo preziosissimo cimelio della mia famiglia. Loro si prendono anche il tesoro. Qui che lo vado a prendere. Intendiamo io. E mangiamo il posto caldo. Hai un piano? Dare poco a tutto. No, stai andando a casa. Dare poco a tutto. Ha un piano? E i miei dadi avranno un piano. Pensavo che Vezzi mi avrebbe fermato. I miei dadi avranno un piano. No, ce l'ho un piano. Ma è diventata una vecchia. Devo solo capire come prendere il posto di strada. Però no, dipende un po' da cosa io salta fuori adesso. Vagina secca, la la la. Pure di patate. Cosa? È Giulio che è la canzone che Giulio intona prima di violentare il Che schifo. Non ho ancora violentato nessuno in sta campagna. Anzi, nessuna campagna. Non può rimanere incinta e posso violentarla. Beh, in un altro gioco di ruolo hai fatto la necrofilia, però. No, ha solo distrutto i corpi. Riccardo. Necrofilia. Everyone is John si chiama. Ah, sì, è vero. Nell'ospedale, da prete. Beh, quello doveva farlo, però era obbligato. Quello... Padre Ballone. Padre Ballone. Infatti, questa campagna. Padre McGee. Padre McGee. Lei torna con il simbolo sacro del corvo. Devi farlo una volta. Sarebbe geniale. Tu non c'eri quando ve l'aveva fatto vedere. Mi sa neanche io. Anche tu? Il mio? Sì, è delle poche sessioni. Ah, è vero, quella della mummia. Cioè, prova di religione. Delle due tu ne sai più di me. Io ho scoperto qualcosa, ma cioè, sono un guerriero. Ah, rispetto a tutto quello che ho scoperto qua, ho vantaggio? Hai inspiration? No. Ti do la mia, dai. Puoi darti, puoi prendere la mia inspiration. Però sì, non è scoprire per un tiro così futile. Per scoprire che cosa esattamente. 14. Il simbolo sacro del corvo è un simbolo sacro del corvo unico nella sua specie. Tanto faccio presto a recuperare specie. Ed è sacro a tutti coloro che di buon cuore abitano a Barovia. Secondo la leggenda, un paladino di nome Lugdana. Il nome? Lugdana lo ricevette in dono da un corvo gigante. La paladina allora. Ma questa è l'altra campagna. No, quella era un albatro. Oppure dicono, alcuni dicono un angelo nelle fattezze di un corvo gigante. Lugdana usò il simbolo per sconfiggere e distruggere nidi di vampiri fino alla sua morte. E l'alto prete di Ravenloft lo tenne e lo indossò come simbolo sacro dopo la morte di Lugdana. È un amuleto di platino a forma di sole e ha un grosso cristallo incastonato al centro. Il cristallo mi sembra più opaco e meno splendente di quanto potrebbe essere un cristallo normale. Nel momento in cui lo prendi in mano, ti sembra che una piccola scintilla si appaia per poi spegnersi. Che cazzo è? E richiede, come tutti, insomma, come molti oggetti magici, il sincronia. Per sincronizzarti con un oggetto magico devi passarci insieme almeno un riposo breve. Facciamo un long rest adesso. Io dico a Lady Vaktar che chiediamo. No, prendo io quindi? Sì, per me sì. Chiediamo ospitalità per la notte. E in caso se. Come lo chiamiamo? Il sacro del corvo. Ah, ok. Of Ravenkind. Se passasse, se sapesse che Lord Radi è in città, dovremmo parlarvi. Ho capito. Perché sì, sappiamo che dovrebbe passare in città con una dovrebbe portare una carrozza. Istruirò il suo tirapiedi, che adesso non mi ricordo come si chiama, di montare la guardia e di avvisare appena lo intravede. Grazie. Prego, venite con me. Aspetta. Vi porto nelle stanze degli ospiti. Per la strada non c'era nessuno, non c'era neanche l'ubriacone del paese steso. Completamente deserto. Volevo curarlo al volo per dare il punto ferito e andare a riposarmi. Vabbè. Che bravo, Paladin. Chi è? Wacker. No, Wizard Points. Wacker. Cura lei. Così. Così. Ma tocca a voi, Vest, noi riposiamo. Sì, perché all'inizio avevo pensato anche di uccidere la vecchia. Ma domattina. Sì, ma non ci sta se voglio un attimo avere qualche chance di parlare con Strad per il momento. Sì, la gomma sei tu? Sì, ma ce l'ho. Cancello tutti gli incantesimi. Ah, finalmente si rosettano. Beh, non vi ho detto che arrivate fino al mattino. Sì? Siamo in casa, sì, che arriviamo fino al mattino, bastardo. Sa di essere rimasto indietro con le pratiche di autoerotismo. Cosa che ti fa schifo? Se ci arrivi comunque verso qualche parte un registratore con i tuoi ordini. Bene. Detto così però sembra molto sottovalso. Sì, dei tuoi ordini. Voi altri cavalcate per un'ora e mezza. Capisci sotto la pioggia scrosciante nella foresta. Ma sta di nuovo a voi, ragazzi. Sì, prendiamo la strada più corta. Ecco. Sfondiamo il ponte a pedate. Anzi, cominciamo a stare all'unisono sul ponte. Dopo un'ora e mezza, grazie alla velocità dei cavalli e dell'orso. E alla guida. E alla guida. Arrivate sulle rive del lago Baratok. Ah. Dai, siamo all'abbazia, ce l'abbiamo fatta. Scarichiamo la siete a metà. No, però scusami, perdone. Ah no, è qui l'abbazia, Cresco. Dove abbiamo detto che ci mettiamo 2 ore in totale. 2 ore ad arrivare qui dove siamo adesso? No, in totale ce ne mettevate 6 a piedi. Erano 7 a piedi. 2 e mezzo, 3 e mezzo, 7 dopo il ponte. E quindi più a orso quanto ci mettono? La metà. Va bene, vai. E quindi qui c'è qui arrivate a questo laghetto, sì, dove al centro del lago c'è, cioè, non al centro in realtà, comunque sulla riva del lago a un certo punto parte questo camminamento che porta ad un isolotto, e su questo isolotto è stata costruita una torre che però non è l'abbazia, direi di tirare la torre di qui. Ma raga, voi cosa siete spendendo a punti vita? Ma io farò un cugino breve. Sembra abitata? Se arrivano, allora l'abbazia, aspetta, hanno detto che non posso sicuro. Che cazzo sta? Quindi in riposi brevi, continuiamo dritti così. In teoria, fra 3-4 ore siamo arrivati. Riposo breve vuol dire un'ora. In un'ora può essere qui. 3-4 ore, siamo molto meno. Sono 3 ore e mezza dopo il ponte. C'è altrettanto da fare. Abbiamo già fatto 1 ora e mezza, mancano 2 ore. Dopo il ponte. Ah, totale! Ah, totale 3 ore e mezza. Allora in 1 ora e mezza, 2 siamo arrivati adesso. Qui. Vedete che c'è un vagoncino, un carro. Mi piace come è stuprato il tuo mannaro. Minchia. Avevo paura che facesse del male. Invece. Anch'io ho molta paura. Ne devo mandare 2. No, eccola. Vedete posso. Che c'è un carro di quelli no, soliti uno ai piedi della torre, bene, secondo me. Ma non è uno che avete già visto. Anche perché dopo erano di assomiglia quello degli stagni. Non di 6 in meno era, però. No, non è proprio. È simile, ma non è proprio uguale a un carro degli stagni. Io guardo bastante. Casimir e chiedo: vogliamo fare una pausa o continuiamo? No, stiamo troppo a rimanere qui. Casimir cosa dice di quella torre? Cosa sa? Lui sa che quella torre anticamente venne costruita da un mago. Sì. Quanti posti in cui noi andremo? Per... che si chiamava Kerez Kazan. Kazan. Rubin. Era un mago molto potente e che divenne un lich. Un ingegnere. Andate, dai, magari è ancora lì. No, adesso è... Ricomincia da un'altra strada. Ed è alleato di Strahd. Era alleato di Strahd. Splittare in parte in tre. E ma quindi studiamo... Strahd è più forte del lich. All'inizio si dice che venne qui per, con l'intento di sconfiggere Strahd e prendere il suo posto. Decidi, era lich o qui? Stava per fargli l'altro. È qui. È salvato. Due menti. Due a un certo punto Kazan sparì e quindi rimase solo Strahd a regnare incontrastato dopo quindi che era l'avversario di Strahd, ma dobbiamo in realtà trovare... per, dopo un certo dopo un breve periodo divennero alleati. Ah, ok, e poi di Kazan non si seppe più niente, ma la sua torre è rimasta lì. Ogni tanto okay. Ho ma vedi che stanno tutti con Strahd, perché noi no? Ogni tanto gli esploratori mi dicono che viene visitata quella torre allora, da qualche lui ce l'aveva pensato già all'inizio ma è un luogo molto pericoloso perché Kazan è romano, infatti viene anche Bonn, quindi deve essere sicuramente qualcuno che si è fatto su, quindi rischiamo di essere visti la torre. Però sicuramente perché non c'è modo di avvicinarsi non visti se c'è qualcuno dentro. No, nel senso dove siamo adesso che stiamo no, adesso siete nella foresta, dalla foresta vedete la torre, è difficile che, che di notte sotto la pioggia qualcuno perché, dalla cioè, torre noi siamo lungo la strada qui vedete. Sì. Parte un'altra strada e lo sì, vediamo sì, in lontananza. Sì, che eravamo sul lago, temevo che... Va bene. Proseguiamo a spron. Vai, proseguiamo. Comunque era la torre che... ti diceva parlava con me. Il bardo mezzelfo il razzista diceva che c'era una torre in mezzo al lago e per che cosa l'aveva detta troviamoci lì sì, mentre stava e il scappando. Carro infatti lui aveva il carro sì ma non è quello c'è un carro sì ma non è uguale al suo, è diverso. Io riesco a distinguerlo. La forma non è la stessa. E questo bardo ha detto troviamoci lì. Perché? Detto... cioè lo sappiamo noi o lo so solo? Ve l'ha detto quando l'avete aiutato a scappare. L'ha detto a tutti? Cioè l'ha detto ad alta voce? C'eravate tutti mi sembra. Perché? Perché troviamoci lì? Boh, perché così. Cioè noi abbiamo creato, cioè seminavamo alleanze, poi era cioè tipo vive qui e ha detto se passate di lì incontriamoci o ti ha dato proprio tipo un appuntamento? Non proprio, cioè era un ma sì, becchiamoci lì. Okay. Non gli ha dato un giorno. Non l'abbiamo cagato molto, poi ora siamo finiti evidentemente nel posto lì. Eventualmente ci possiamo anche pensare una volta recuperate lì adesso come adesso no. Ah, la torre non va da nessuna parte però. Via, corriamo. Correte, quindi arrivate in R. Che cos'è R? È un bivio. Ce lo sei tronchi. La mappa sotto gli occhi non ce l'ho mica qua a vedere però non sei là non sei però è stata bella questa sto imparando l'incrocio del fiume Corvo River Crossroads. Hai un di 12 o un di 8, signora? Arriva alle mogli so, di Strahd. 15 uomini. Era contento del mio occhio. Che 15 rubi. Cosa guarda? Ah, tanto noi non stiamo 15 lì. Pietre. Vedi che divertente. Qualcuno molto forte. Strahd. No, non lo posso vedere. Puoi stampare delle schede bianche per la prossima. Cazzo che sfiga. Vabbè, sei il master, puoi anche decidere di cambiare la sorte. No, ormai ha tirato. Com'è avere due parti da gestire? Com'è, com'è avere una parte del party che ride delle sfighe dell'altro party? Ci sono cinque lupi che vi stanno inseguendo. Vabbè, cosa fate? Saremo più veloci di loro. Vai, inseguimento. Per forza, vediamo come funziona l'inseguimento. Ma sono lupi normali. Sono lupi normali. Sì, l'aspetto è quello di lupi normali. Possiamo fare un tiro per analizzare. Assomigliano. È uguale a un lupo normale. Quindi sono, sembrano più piccoli di quelli di prima. A vista. Sì, sono più piccoli di quelli di prima. Sono dei lupi normali. Ti giro tirando. Assomigliano a quello che hanno visto loro lungo la strada. L'orso rosso. Come fai a sapere? Così, così. Quanto manca l'abbazia? Manca piedi 2 ore e mezza. Quindi dai, a cavallo. Un'ora e un quarto. Di inseguimento. Dai, no, no, inseguo solo per me. 252. Se sono in meno, perché ti raggiungono prima. Si trasformano in lupi mannari. Abbazzarli i lupi. Sì, ma Vez, si trasformano in lupi mannari tra poco. Perché sono... Non possiamo lasciare i cavalli in pasto. Si trasformano in mannari adesso. I nostri giocatori non lo sanno, ma... Cioè, i nostri personaggi non lo sanno, ma... Adesso che arrivavamo come degli idioti. Quindi... Spoiler. O facciamo tutti i critici anche noi. Bella, è stata bella. Cioè, magari erano gli zombie di strada. Un'altra nota che ci sono gli incontri del giorno e gli incontri di notte. Ovviamente quelli di notte sono molto più pesi. Cabra, io sono 11:30. Vogliamo fare la prossima volta? No, non so. Dai, teoria, sei riuscito a scappare? Vediamo, dai. Possiamo riuscire, c'è una speranza. Allora, intanto... Intanto, mentre corriamo, le robe su di noi possiamo farle. Sì. Quindi io mi curo 5 punti ferita, che è quello. Ah, però! 13 pietra. Non potremmo andare per baffare anche noi. Velocità. No. Ho un ultimo incantesimo in secondo. Ah, still on grass. Io sono ancora orso. Sì, se no ti hanno già raggiunto. Quanto dura la forma animale? Quando l'ho fatta, 25 dura 2 ore e mezza. Eh? 2 ore e mezza. L'ho fatto. 31. Sì, allora. Sì. Era 3 ore e mezza in totale la strada che dobbiamo fare, avevamo già fatto più di un'ora al ponte, quindi. Giusto un'ora al ponte, quindi sono esattamente. Sì, ti manca un quarto d'ora. No. Lui l'ha fatta al ponte, no? Certo. Quindi, scusa, tu hai detto 2 ore e mezza dal ponte. Avete fatto il combattimento. Tra un quarto d'ora devi fare. Vabbè, sì, esatto. Ricordati. Allora, come funziona? Cioè, vi farlo in fretta che. D'accordo. Continui a correre. Oh, cazzo, dai, ma che roba, quando dura l'abbazia? No, alla sua alla fine della sua forma animale. Aspettatemi. Okay. Che altro, magari pare che il cavallo è uberato. Ah, speriamo. Quale cavallo? Non so, sono un sacco di persone sulle stesse. No, c'è solo il cavallo di Irina e Ismark che sono loro due e poi tutti gli altri. Ah, perché voi, lui non è più sul cavallo. Abbiamo un morso. Che sfida. Perché? Cosa volevo dire? Ma è Kevin? È sul suo cavallo. Ah, un suo cavallo. Hai detto di no. Ma sì, Maria, ma la peggio, sì. Buttiamo giù perché i Reed e i Cogliolovi sono andati sullo stesso. Ah, poi sono andati sullo stesso. Okay. Prima erano due diversi. Esatto. Okay. Giusto. Allora. Dai, combattete. Non l'abbiamo tirato giù in due turni. Abbiamo speranza. Tu li avete di vita. Ma poi sono in 3. E sono in 5. Noi siamo in 3. Dobbiamo scappare, è l'unica. Se non riusciamo a scappare, moriamo con un'ora. Oppure l'elfo è veramente forte, magari fa vedere qualcosa. Ma c'erano anche Irina e Coglioni. Sì, Irina, se muore, finalmente finisce tutto sto strazio. Irina sarà quello combattente, io credo. Ma se Irina la lasciamo qui e continuiamo a correre. Irina, da quello che sappiamo, i lupi non la toccano. Vero? Possiamo tutti metterci dietro di lei. Esatto, è vero. Sbattere come dopotutto una sposa, quindi. Agitando, esatto. Mettiamo come sacca di sangue davanti ai cavalli. Ammirami! Continuiamo a correre con Irina davanti. Uno si incatena Irina esatto. Addosso. Fighissimo. Me lego addosso, non delle cantate. Dovete fare le prove di costituzione. Ops! Noi, non i cavalli? In teoria i cavalli, è vero. E l'orso. E l'orso. Quindi ho vantaggio io. Allora, ma scappate sempre quando si versa. Tanto mi dovete dire il vostro modificatore di costituzione. Più 2. La del cavallo. Sì, per... poi mi servirà anche il vostro. Il più 4. Allora. Ma adesso rimane indietro. Come no, no, in realtà mi serve quello di Arci prima. 5. Da 5. Orso. 5. No, da orso lo sei te. Però io ho la proficiency. A cosa? Cosa c'è? Al tiri di arco di costituzione. Ma di anche di salvezza. E tiri. Sì, vabbè. Esatto. Non so che cazzo di tiri. Non è un tiro salvezza. Che sia... Non siamo ancora arrivati ai tiri salvezza. Brown Bear, 16 di costituzione. Quindi schifo. Più 2. Torno uguale. 3. Quanto veloce a quanto pare da umano? No, non credo, solo... quella è la resistenza. La la la, più veloce. Solo nel momento in cui sei seguito, però. Du du du du. Questa cosa è per vedere quanto duriamo. Quindi avete 3 più la costituzione. Quindi 3 più 3, il cavallo quanto ha? E noi stiamo dormendo a casa di Red. Beh, così il cavallo riuscì a ferire. Ma appena capiscono che voi siete contro. Siete. No, non siamo contro, voi siete contro. Beh. Sì, ma no. Sì, ma sì. No. Noi appena Noi abbiamo anche tutti gli incantesimi adesso. Noi appena abbiamo scoperto la cosa siamo venuti a far rapporto. Dipende, se ci vendete, sì. Ok, se non ci vendete siete... Dipende dal prezzo. Se ci vendete. Quando ci vendete. Sono i lupi questi. Esatto. E loro hanno questo 5. Ok, come funziona? Quindi funziona che voi potete andare avanti a fare lo scatto per un numero di volte pari a 3 più il modificatore di costituzione, che per cavalli è 1, quindi 4, mentre lui di più. E sì. Non lo fare, rimani con lui a combattere. Cazzo, no, secondo... quando arrivate attiva il nos. Quando arrivate al, a finire gli usi, potete fare un uso addizionale facendo una prova di costituzione alla fine del turno. Cioè, sì, i lupi quanti ne hanno di usi? Beh, di più. 3 più il loro modificatore di costituzione. Non lo puoi sapere. Che è di più adesso, di uno. Adesso lo scopri. È più di uno, ma pensavo fosse più alto. No, e... credo sia... Quindi... ogni volta che una volta che finite gli usi fate le prove di costituzione, se le superate lo potete usare comunque, ma se la fallite beccate un livello di ma nostro sempre del cavallo, finché il cavallo ci dà potete usare il cavallo, che quando il cavallo stramazza vostra. Ah beh, una volta che corriamo noi a piedi nostra, certo, okay. Dopo vanno più veloci loro, esatto. Quando sì, quando arrivi a 5 livelli di forse il cavallo affaticamento muore. Il discorso è che quando il cavallo magari è stanco cade il cavallo a terra, ma i lupi sono stanchi, loro cadono il cavallo che sono freschi. Uguale. Magari. Sì, magari i lupi comunque sono stanchi e sono quasi arrivati. Si trasformano. Notte fonda, è vero? Trasformano con una cosa che va più fiando. Sì, esatto. Scusami. Che perché complica abbastanza. Sono, la, sono nella forma in cui vanno più veloce quei lupi. Sì, dopo è peggio, hai ragione. E quindi... No, però pensavo dopo sono freschi. Se si trasformano, però... No, però comunque no. È meglio non ingazzare, direi, stavolta. Quindi inizia l'inseguimento. E... cominciano... Si beccano livelli di... di coso, cioè anche se cambiano forma gli rimangono. Cominciano ad inseguirvi e per quattro turni li staccate, cioè li staccate, li tenete lontani. Quindi si fa a turni? È una roba, cioè nel senso non finisci mai. Ci sono stati livelli di esaurimento. Appunto, hai finché sei fresco corri. Adesso comincia a vedere chi si affatica per prima. Beh, io sono ancora fresco. Sì, tu in realtà sei più fresco di tutti perché hai ancora due turni. Una rosa! Strong! Torno nano, faccio così e divento l'orso di nuovo. Vabbè, c'è un momento in cui torni nano. Sì, quindi i cavalli arrivano, diciamo, ad avere il fiatone, tra virgolette, e il vostro amico Velikov si accorge di questo. E quindi vedete che nella sua mano cominciano a... Finalmente fa poco. Circondarsi per non farli soffrire. Però scusa, potremmo tirare nel frattempo, no? Tu se hai un'arma a distanza nel frattempo per provare a tirare. Allora dammi 4 turni di tiro. Vai. Io ho 2 accessi. Un attimo, carta. Io ho un turno. Io posso fare un turno. Sono avanti anche rispetto a loro. Che sì, tu ma... il tuo. Che cosa se vorresti avanti fare? Allora, io loro hanno costituzione. Io ho un turno di. Ho 2 turni in cui sono più fresco di loro. Sì, ma sì, fresco non ma vuol dire che fai più strada. La tua azione la usi comunque per fare lo scatto. Loro che sono a cavallo. Sì, ma noi siamo avanti fanno rispetto a loro. Sì, ok. Quindi, vuoi rallentare? Se ti fermi ti raggiungo. Però io posso fare come il mio turno, io posso fare. Cioè, tornare nano non è un'azione, non è un'azione bonus, è un'azione gratuita. Posso castare un incantesimo di evocare lupi. Come azione bonus torno orso e l'altra fase di movimento continua a correre. Ok, ma quindi tu fai un movimento, loro ne fanno 2. E ti prendono. E gli sparo in mezzo 8 lupi in mezzo al ho 8 creature in mezzo ai coglioni. No, dico al massimo farlo, il turno dopo farlo, però perdi un movimento. Vabbè, al massimo... No, lo posso fare più avanti quando finiscono, sto dicendo questi turni in cui magari lo al massimo la peggio becca un attacco di opportunità quando ricomincia a correre, loro si bloccano. No, non arriva da me perché mi prendono. Dipende che distanza sono. Questo non l'abbiamo capito. Esatto. E soprattutto con la notte fonda è difficile stabilirlo perché non è che li vedete. Catta, il movimento 12 metri, cioè se sono a 20 metri me ne accorgo. È buio, come frutto. Potrebbero essere a 40, potrebbero essere a 20. Io non mi fermerei. Però valuta tu. Quindi ah, tu hai il fiuto volendo da orso. Se vuoi puoi provare a sniffare. E tu, mentre sei a cavallo, puoi tirare. Chiaramente mentre il cavallo galoppa ti do svantaggio il tiro. Anche il buio. E anche il buio. Scusa. È la prima proprio di due svantaggi dello svantaggio. Esatto. Se piove anche. È vero, piove anche. Quadruplo svantaggio. Vabbè, svantaggio ce n'è uno solo. Sì, no? Sì, sì. Come anche vantaggio purtroppo. Allora. Quindi. Eccoli qua. Cominciamo col primo. Ah, però. Cazzo, il 20 via. E il 17 via, però sono un 18 e un 19. Li hai divisi tu in un attacco. Hai fatto 2 attacchi? Sì. Ah, adesso il turno. Hai diviso, sì, quindi sì. Già qualità di erano di una qualità di sì, erano sì, della... sì, sì, sì, sì. Ho tolto via un 20 e un 17. Ok. E quindi ci faccio... Ho fatto 2 di 6, si è preso tutte e 2. Sì. No, non cazzo della tua. Ah, di 6 però, 1 lo ritiro. Quindi, ah, 2, vabbè. E sono 8 danni. In 2 cioè, attacchi diversi. Sì, quindi 6 e 2. Vabbè, non cambia niente. Sì. Ah beh, qui se non gli faccio niente. Ah sì, è vero, pensavo che solo resistenza, hai ragione, a meno che tu non abbia delle frecce argentate, quelle rimbalzano contro di loro. Boing. Ah, proprio 0-0. Posso tirare. Beh, adesso ma sai che sono immunità. Immunità. Attacchi qualunque cosa che non sia argento? Qualsiasi attacco da un'arma non magica che non sia d'argento. Ok, bisogna correre ancora più forte. O argento o magico. Sì, beh, l'ultima cosa che posso fare è usare la spada per ammazzarmi. Se hai... possiamo fare idea con danno. Questi hanno fatto... Se con i nuovi incantesimi prendi arma magica. Noi l'abbiamo ucciso. Io la spada d'argento e lui gli incantesimi. Noi l'abbiamo ucciso. L'unico che può fargli qualcosa è lui con degli incantesimi. Boing boing boing. Dai, i cavalli si stanno stancando. Tirate una prova di costituzione. L'unica che abbiamo trovato la distanza sono allora il cavallo. Fai un che avrei modo lì? Ah, tu hai il fiuto. O anche la vista. Non so, c'è tu crepuscolare. Dio. Brown Bear non credo che la vista crepuscolare, però perché no? Sì, puoi capire la loro vicinanza dal loro odore, per quanto purtroppo comunque lui di base facile, comunque essendo un nano la dark vision ce l'ha, ma da orso non so se la perde. No, ce l'ha anche da orso. Una non so se la perde. No, secondo me la dark vision la perdi per le caratteristiche e ritrasformati al volo. L'orso era un quarto d'ora. Se l'orso non ce l'ha, non ce l'ha. Però visto che sei distante, a sto punto fai sta cosa. ti ritrasformi, guardi, ma non perception, ma non ti ritrasformi e corri. Fare, corri, non capisce quanto è distante. Sì, non può farlo con l'olfatto dell'orso. Lo fa con l'olfatto dell'orso, non so quanto. L'hai fatto con svantaggio? No. Tira. Il fatto hai un l'orso in percezione a più 3. Quanto hai fatto? 1 3 4 sono laggiù. Ha fatto 1 e 20, quindi sono lontanissimo. Vai pure con calma. Sì, è vero, sei svantaggio. Cosa tiri il secondo dato? Se hai fatto 1 farà il doppio 1. Va bene, dai, cominciate a stancare questi cavalli. Prova di costituzione. No, cavallo... è Kazmir, cos'è che fa? Ah, è vero, sì, bravo. Perché nel frattempo magheggia. Magheggia e da dietro di voi comincia a venire giù una bufera di neve. Sì. Nel punto che avete appena passato. Blizzard. Per rallentare l'intento, ovviamente, è quello. Prego. E lupi bianchi, ma diventa più forti, esatto. più affamati. Mi sembra che li abbia un po' rallentati, però è buio, chi lo sa, magari li ha velocizzati, scivolano sul ghiaccio. Fate delle prove di costituzione per il vostro cavallo. Quanto CD10, quanto ha in costituzione il vostro cavallo? Hai detto più 1, quindi esatto. CD10, quindi però le prove di costituzione di fatto sono di salvezza. No, no, è una prova, è come se fosse allora una prova costituzione. No, ma no, tu non devi farlo ancora. No, no, era per chiedere. Vai, tiro di dado più 1 e devi fare più di 10. Quindi dite il vostro nome, che 15. Quindi tu l'hai passato. Sì, 15 anch'io. Posso tirare per i coglioni? Puoi tirare per i coglioni. Potremmo con svantaggio, sì, però quante volte dobbiamo reggere? Perché svantaggi? Ah, per 2. Vardi strano, ok. 5. Mi ero come contento. Ah no, tu sei, non sei d'accordo. No. Ho fatto sì, vabbè, ma vai, guarda, ritirati di con l'altro ho fatto 15, ma avevo svantaggio. Uno, ma Giulia ha un più 1, non può aver fatto 1. Allora meno 3. Lo svantaggio, Pez. Ho fatto 15 e 4 come era. Bene. Elfo. Passa. CD e 10. Avrei che se Irina muore sbranata dai lupi non è neanche colpa nostra. Noi diciamo a Stabia la stanno portando e l'hanno sbranata dai lupi suoi. Quindi io, così. Ma non attacca. Irina non verrà toccata. In teoria è l'unica che non viene attaccata. Quindi diremo: perfetto, strano. Noi non dovremmo portare brutte notizie strane. Vai, nuovo giro, quindi. Noi vediamo se loro sono stanchi e rimangono indietro. E il cavallo di loro lupi. Cioè, se rimangono ancora indietro, ancora non l'hanno fatto. E il cavallo di Kevin. Posso rifare una prova di olfatto io. Il cavallo di Kevin? 20 di dado, frega, 20 di dado, ho svantaggio. Dai. Beh, meglio di 14. Ok, sono stati rallentati abbastanza dalla bufera di coso. Quindi secondo me sono... E intuitivamente diresti che a 50 piedi di distanza... Il giochetto che puoi fare, ce lo dovresti fare. Ah no, aspetta, fanno due movimenti, loro no, ti raggiungo. E comunque ne faccio uno di meno. E nel frattempo mi fate, quindi sì, in teoria allora loro cominciano a testare e voi fate il secondo giro. Dove devi tirare? 18! 20! I nostri cavalli sono fortissimi! 2! Vabbè, Irina è andata. Ho fatto 11 e 1. Ma può tirare Giulio? Tiro io! Fatti tirare qualcuno. Tiro io, oh, cioè, non è che lo faccio al posto. Non può tirare Giulio. Va bene. Giulio ha dei tiri che hanno... Cioè, i dadi di Giulio sono dei diventi per modo di dire, guarda. Sono tutti numeri 3, 2, 1, ci sono quei numeri lì. Tiro io. Tiro a te. No, con i dadi di Giulio. No, sti cazzi, non tiri i dadi di Giulio. Ho fatto 19-20 prima con questi. Non mi interessa. Tira con i miei. Tira con questi. Tira con bello, quelli. Speriamo bene. Rompi cazzo. Aspetta che tira. No, in ordine. Manca? Ho fatto 20. Ok, avete 18. Fatto tutti? Sì. Bene. Manca il tipo. L'elfo. È passato. Ebbene, quindi sì. Oh, adesso finalmente anche Arci li finisce i suoi usi. No, io ne ho due in più. Appunto. È il terzo questo, penso. Ah, stiamo entrando nel terzo. No, vedi se fare il giochetto. Lo sappiamo. Io sì. Io posso fare la prova di ho fatto di nuovo. No, no, aspetta, non volevi fare. Sì, sì, ma dico intanto, siccome c'è il turno lì, posso fare anche per me. Ma quando fare l'esaustione, cosa succede? Di prima. L'esaustione cosa fa? Te l'ho detto prima. Non mi ricordo. L'affaticamento. E quindi il fatto vai avanti finché non arrivi a 5, che sei scompato. Ah, ok. Vabbè, il cavallo è ancora 3. Aspetta. Queste mostre. Non mi ricordo cosa fanno gli altri livelli, vabbè. Anche perché a un certo punto. Anche se secondo me con due c'ha un pato e sorto la gamba il cavallo. Giulio. Aspetta, non mi ricordo cosa succede. A un certo punto non si dimezza la velocità quando ti affatichi. Non lo so. Guarda come gore. Ma no, io sono totalmente neutro, ma non interessa. Beh. Ma no, tecnicamente cazzo, io posso cambiare sì. Lupo, cambiare orso. Okay. Sì, tu puoi cambiare orso e il mio orso stanco cambia. Oh, brutto! Ah, e sì, si prende sì, su. Sì, brutto perché lui se ne va e non ci aiuta neanche a noi. Sì, brutto. No, si prende su Irina, Cogliolo e muore. Ma perché stai già fissa per Irina? Sì, ma porca troia, se la vuoi. Allora, la vuoi così? Prendi sul tuo cavallo. Sì, no, il mio cavallo guarda. Sta fissa per Irina. Dobbiamo salvarci il culo. Irina viene dopo. Io posso tanto Irina non viene attaccata. Siamo venuti qua per salvare Irina. Ma Irina non viene attaccata. Al secondo livello Irina di affaticamento la velocità si dimezza. Indietro a prendercela però. Ci segue sul suo cavallo. Allora, lei non viene attaccata. Vai, facciamo il terzo giro. Prima o poi lei arriverà. 3 e 16. Uno anche per lei. 18. Mi sta diventando tutta anch'io. 14. Dai, adesso ci fermiamo. 6. Cazzo. Parte 6. Beh, a sto punto quando cambio forma mi sparo anche. Ma fallo. Adesso lo faccio. Secondo me ti conviene già farlo. Vabbè, ma forse Kogliolovic si sacrificherà buttandosi e morendo. Buttando Irina, sì, così il cavallo ricomincia a correre. Kogliolovic butta la zavorra. Sta rallentando troppo. Kogliolovic guarda Irina negli occhi e dice vai, salvati tu. Aspetta, non tirerò con svantaggio, però continuo a tirare. Che cosa? Se ce n'è solo uno sopra non avrò svantaggio per i tiri, però. Quando ormai ha faticato. Sì, aspetta, no, però lui fanno. Scende e strella spada. No, cade il fratello sbagliato, lascia scendere lei, tanto non l'attaccano, ma sono serio. Bravo. Tanto lei non l'attaccano. Perché è spaladino? Perché non mi hai fermato ad aiutarlo? Cioè, è un paladino. Velico, ovviamente. Cosa dice... lo attacco esattamente? No, dovresti trascinarlo via. Lo prendi sul tuo cavallo e lo trascini via. Lui è rimasto indietro di 26.000 piedi. Sei un paladino. Ma si sta affaticando, non vuol dire che. No, l'ho capito, rega, paladino. Si sta affaticando, non vuol dire che rimani indietro. Sono al quinto livello. Siamo pari. Non ho visto neanche l'ombra dell'arma magica. Ci arrivano contro 26.000 stregoni di 80° livello. Ah, però è rimasto fermo e lui mannare. Vabbè, è vicino a me, posso provare a prenderlo su. È andato, anche perché era già più indietro. Chi è andato? Chi è morto? È andato, dai, è indietro. Ah, che abbiamo anche la carne da macello, allora vi faccio così, catta. Nel mio turno faccio il giochino. Fai il giochino, Kogliolovic carica le tenebre insieme ai tuoi animali. Carica le tenebre, pam, due lupi lo prendono su. Ma non è detto che muoia, magari lui è lupi. Quando decide capo cosa evoco? Ma magari diventa un lupo mannaro, sarebbe una gran mossa di strada. Scegli di fare i posso suggerire a strada di trasformare Kogliolovic in un lupo mannaro? Sei un grande! Sei un grandissimo! Oddio! Ma dobbiamo vedere la GS, Vez! Guardami la GS dei cavalli da guerra! Anzi, posso fare i cavalli veloci, guardami la GS dei cavalli. Fai i cavalli? Mi dà la sfida. Posso fare i cavalli? Ma non ci serve. Arrivano i cavalli! Deve lasciare qualcuno che li combatta. Arrivano i cavalli! Anche perché arriviamo all'abbazia, ma sono freschi. Sì, ma io posso evocare... Io ne evoco di più. Okay. Loro fanno le prove, noi... Metti che arriviamo all'abbazia, e l'abbazia non è questo posto sicuro che dicono. Comunque ci inseguono, tanto vale che gli diamo qualcuno che li prende qui. Se dobbiamo morire, moriamo. Nel senso che non abbiamo... Cioè, non devo evocare degli animali che li combattono, loro si fermano e noi ce ne andiamo. E non mi vengono fuori i cavalli che decido io, visto che fai tirare il dado. Quindi probabilmente verranno due cavalli e due merde. E le merde rimangono, i cavalli rimangono. Esatto, che cavallo vorresti, scusa? Guardami la GS. Di quanta GS vuoi? Basso. Cavallo da guerra. Beh, li avrei fermati con qualcuno da combattere. Quanto è cavallo da guerra? Con gli si può prendere un cavallo e ripartire. Irina pure. Vabbè, invece... è vero, così salviamo anche con gli onovici, ma non so se facciamo in tempo a salvarlo. Irina pure. Che ormai è rimasto indietro. Beh, glieli fa lì, li sta facendo adesso. Di sicuro che volete cavalli in un'altra roba per incasinare. Fai cavalli, dai. Boh, è una scelta tua. Fai cavalli. Dai, voi cosa mi stendete, cavalli? Dai cavalli, tanto questi qua. Allora, i nostri sono a posto. Il discorso che dicevo io era. Dipende punto. Cosa puoi lanciare, però. Se gli lanci qualcuno da combattere, loro si fermano a combattere. C'è quello di Rina che va a metà della velocità. Se noi. Se i cavalli che evoco li catta che velocità. No, fai cavalli. Se evochi dei cavalli. Sì, se evoco dei cavalli, che velocità vanno. Tipo, se quello da guerra a 60 piedi. Che quindi è? Quindi è. Come quelli. No, è più veloce. È più veloce. Vai con i cavalli da guerra. Ah, beh, cioè, quello che dicevo io è che se gli metti qualcuno. Quant'è un mezzo? Sono mezzo morti. Cioè, quello che dicevo io è che se gli mette qualcuno da combattere, loro si fermano e noi anche su quattro cavalli, due li mando a spatacarsi. Qualsiasi cavallo insieme. Hai capito? Se tu gli metti dei lupi o qualunque altra cosa da combattere, loro si fermano e combattono. I cavalli che dicono facciano danno, perché più danno un unico i cavalli da guerra che un lupo. Ah, tu metti a combattere? Due magari sempre scappare, lui li lancio contro l'orizzontale. Okay. No, va bene, tu evochi, allora sì. Provi a evocare dei cavalli, tira un di 4. Vai. Solo 4 puoi, questi. Uno da guerra gli altri. Arriva un cavallo da guerra. E gli altri? E vediamo, Gesso Cirina mezzo, un cavalluccio marino gigante. Veramente? un altro cavallo. Uno squalo da barriera corallina. No, scherzo, c'è una capra gigante. Gigante. Quanto corre? 40 corre. La capra piace ai lupi, lascia lì da mangiare. La capra di ciarcia. Allora, poi il gufo gigante no, vola. Non so, li puoi fare anche volando. Ah, posso evocare quelli che mi pare. È mezzo il gufo gigante. No, un quarto. Vuole qualcosa di più sostanziale. Allora, quella gigante forse, no, quello è uno forse. Solo non si vedono. Forse c'è il avvoltoio gigante. Cane morto. Beh, così quella se la può prendere i rider e con le oro ci prosegue sul cavallino sfigato. In mezzo un orso nero. Dai, sbuttagli l'osso dell'orso. Che non ci darebbe tanto fastidio, cazzo, sì. 40 piedi anche lui. Ah, corre 40 piedi anche quello. Ma chi se ne frega, glielo lascia combattere quello. Sì, se lo mando in. La capra è la cosa più bella, però. È una scimmia. È vero che c'è anche Frank. Lì che se la fa sotto sulla tua spalla. Mentre io corro da lupo, da orso, immagino Frank per tutte le reti. Che non ho mai agito, tra l'altro. Poteva usarlo ad attaccare i lupi prima. Ma questi come vengono decisi? No, li decido io. Ah, quindi cosa c'è? Cioè, un cavallo, un orso nero, una capra gigante e una scimmia. Che scimmia è? Scusami, una scimmia. Ape, scimmia. È tipo un gorilla. Si impara la costituzione. Vai con quei due a rallentare quello più quanto veloce. Quanto si muove? La scimmia, 30 di velocità e 30 di scalata. Ma il cavallo comunque chi lo prende? Irina. Mandalo lì e lo prenderà. Irina con gli onici. Certo. Sono gli unici col cavallo stanco. Comunque. Allora Irina. Dico, cioè, il cavallo. Cioè, l'ordine al cavallo di andarsi. Sì, però magari devi dire a loro. Irina è sul cavallo. Sì, no, di prendere il cavallo da guerra. Io non posso dire. Ah, no, mentre divento nano, dice cambio macchina. Via Irina e Coglionovic. Cambio dell'olio. Cioè, vogliamo dare Irina e Coglionovic il cavallo da guerra fresco che scappano. Coglionovic adesso è sceso. Vabbè, lo prenderà Coglionovic. Beh, io dico: Coglionovic, Irina, avete un cavallo nuovo? E glielo evoco. E lui vede la capra. Ah, beh, anche la capra. Posso. Sì, in realtà è uno sul cavallo e uno sulla capra. Vabbè, se no continua a avere svantaggio ai tiri. Mando a combattere sia l'orso. Però è più veloce e i lupi si fermano perché hanno due avversari. In teoria, a parte comunque per tipo 4. Il cavallo da guerra, appunto, ha di. Dio. Costituzione. Dai, la capra con gli ono vicino a il cavallo. Pazzesco, sì, che è capace che il gorilla con più costituzione e corra. No, vabbè, mando sempre più uno. Vabbè, orso e più. Gorilla in corpo a corpo e. Voglio fare veramente come che evocava carne capra. Cavolo con gli ono. Vabbè, capra e cavoli agli altri due. Sì. E il cavallo stanco di Rina anche lo lasci indietro. E anche il cavallo stanco di Rina è giusto che muoia sbranato. Eh beh, quello vabbè, tanto è senza guida, continuerà disperata. Sì. Quindi aspetta. Sarà l'unico a sopravvivere. Ma tu sto cerchino lo puoi anche rifare, dopo uno. Spero che abbia finito quei cazzo di slot. No. Ma in teoria questo, se avessimo fatto un riposo breve, raga, sì. Questo ci dovrebbe far prendere abbastanza tempo ad allontanarci. Alla peggio, appena gli animali finiscono, posso evocare una sfera infuocata che comincia a ruotare contro i lupi. Che ci sta? Non potevi farlo prima? No, vero. È una, non blocca tutti e cinque i lupi. Intanto ci mando l'orso e cose. No, ma adesso gli lasciamo l'orso e noi teliamo. Sì, tanto non devi essere vicino agli animali, tu no, te ne puoi andare, sono indipendenti. Quindi ripetimi. Ah, tra l'altro, io mentre sono nano ho anche 18 metri di scura visione. Quindi vedo anche bene cosa sta succedendo con quei 18 metri. Che sono in piedi 40. No, mi sta un po' di più. Non lo so. Niente, Katta gli... No, spesso è 60. La capra va da... Va sono da il doppio del movimento base, Katta, perché il cavallo da guerra va da Iride. Fino a 60 piedi, Katta, vedo... Okay. Iride scenderà, vedi 5 lupi che ti stanno inseguendo. Ok. io glielo sparo lì davanti, cose. E... Cosa? Ma... L'orso... Cioè, Irina a che distanza è dai lupi, scusami? Irina è da dove siete voi. Ah, no, ok, allora vai, li evoco lì. Ma tu quando sei lontano dagli animali invocati senti se muoiono, se capisci? No. L'importante è che non becchi danni io, perché no, se li perdo la concentrazione loro svaniscono. Se tu li metti lì e ce ne andiamo, non senti se muoiono, no. Se non sai un cazzo. Durano per un'ora, che poi... Se muoiono prima non sì, lo sai. Sì, ovviamente ho il limite però in cui li evoco. Se te lontani troppo spariscono. E se tu te ne vai? No, ancora no. Quindi... Semplicemente Irina tu... è sul suo cavallo che sta correndo, cosa dovrebbe fare? Scendere e salire, salire sull'altro oppure saltare, può provare, se si mette il suo cavallo da guerra, si mette di fianco all'altro, può provare. In realtà può anche correre con quel cesso di cavallo e il mio cavallo la affianca, e quando quell'altro comincia a rallentare lei suona. Quell'altro ha già iniziato a rallentare, l'altro ha già cominciato a rallentare, può provare a saltare, sa andare a cavallo. L'altro che è sceso per terra tutto coraggioso con la spada per affrontare sulla capra. Io gli urlo, io gli dico: Koglionovic, sali sulla capra gigante e scappiamo. Non ha senso, evitiamo sacrifici inutili. Frank, prepara. Lì, ho capito. E uccide la capra. Effettivamente, ti ricordo che gli animali che evochi sono dei non morti. Quindi, chi se ne frega. Vabbè, come fa a distinguerle lui da un altro avversario? Perché lo vede che la fa lui. Catta! A parte che l'ha già visto che gli evoco i non morti animali. Sì, l'ha fatto poco fa, ma poi glielo dice, dai. Ti per salire al settimo, diretto. Beh, io comunque glielo dico, sali sulla capra zombie. Sì, glielo può dire, beh, certo. Deve uscire tra l'altro un film adesso sui zombie con Adam Driver. Con Iggy Pop che fa lo zombie. The Dead Don't Die. The Dead Don't Die con Bill Murray. Bill Murray e zombie uguale, film epico sarà per forza. Dai, Katta. Comunque dicevo, lei Irina può provare a saltare da una sella all'altra, una cazzo di combattente. Irina prova a saltare da una sella all'altra. E si rompe la gamba. Vedi quanto ho fatto. Uno. Che sei una merda. E cade, si rialza, no? Certo, cade la colla in corsa tutta salute. No, ci siamo fermati. No, da fermi. Siete fermati, non più. Vabbè, sono si raccata così. Vabbè, no, non ho capito niente. Vabbè. Irina cade per terra cercando di saltare su una sull'altro cavallo. Suo fratello, vedendo la scena, per evitare il peggio, si mette a ridere. E prende la capra e la manda alla carica, sale sulla capra e va alla carica sulla capra insieme verso i lupi. Vabbè, i lupi. Sì, si perde nell'oscurità. Irina si rialza e sale sul cavallo. E non sentite più i lupi che vi inseguono. Un mio amico gioca a D&D e fa: il mio dungeon master di D&D mi ha appena inviato questo video. Ed è polizia interrompe la sessione. Di culo barbieri. Non ne so, Alex. Non lo so, c'è scritto al tuo canale di arrivare. Ah, non lo so. Non conosco il cobra. Allora. Magari il suo master si chiama Nicola Barbieri. Lo salutiamo. Vabbè. Bene. Vabbè, alla fine tutti salvi. Esatto. Cioè, con Leonovic ho scelto. È successo l'anno scorso o due anni fa? due anni fa. Vabbè, l'unico che ti ha rimesso il coglione, cioè, ha scelto lui. No, ma ha fatto bene. No, ma sì. Era quello che volevo. Oh, Irina ha perso un altro fratello. Nella stessa notte. Nella stessa notte. Oh, è stato eroico e va ora. Non trovare. No, è morto veramente, è morto veramente. Non vedete che sia morto, magari. Magari no, non dai, morto. No, dai, magari da solo ha sconfitto 5 lupi mannari. Non da solo con una capra. E l'ha presa, è andata a caricare i lupi. È ritardata, la capra, ma dove dico io comunque, non è che vado nel coglione. Se, allora se non si muove scende, ci va a piedi. No, no. Però tu vuoi morire, allora, la capra ammazza. Allora, va bene, va bene. Beh, ho capito che sei stupido, però. Ma ci stavo. Cioè, alla fine il suo obiettivo era salvarci, cioè... E noi abbiamo fatto un long rest. Ma ci saremmo salvati lo stesso. Fatto un long rest. È stato un sacrificio inutile. No, in realtà dopo due ore era arrivata Adin che aveva appuntamento con voi. Io sì. Dormo. Mi alzerò io. Però riposo breve comunque. Sono solo al 5 nel servizio, quindi io mi confondo. Siete saliti in sezione e mi confondo con l'altra gente. Ho capito, ci parli della gente di 20 a quanto livello. Non dipende, allora, se mi avete perché fatto non tutto è cut and master. È iniziato prima di là. Non si fa mai salire. La sezione scorsa, mamma mia. Ci fanno anche salire sui cavalli che evochiamo. Per far cadere le persone per terra. Tranquillo, che adesso io ho capito come salire e saliremo sparati. Quindi Lupi si tira questo di uno per vedere se Irina fa uno. Tu sali. Tu sali quando gli obiettivi. No, basta che succeda qualcosa di significativo o che cambi qualcosa nell'ordine che c'è a Barovia. Quindi adesso cambierà tutto. Fianco col destra, dammi le caratteristiche, basta. Sì, delle caratteristiche in più, per favore. No, mi basta riavere le mie. È andata benissimo. Sì, siamo. Adesso che loro ci arriveranno addosso. Loro sanno dove siamo, ci mandano addosso strada degli altri. Ah, loro, loro. Sì, beh, non, detto, non, non lo sappiamo. Questa fiducia nella nostra... Esatto, cioè... Vabbè, per forza, no? Se le ammazza si usa stante. È difficile da capire. No. Detto, magari prendono tempo. Se non ammazzano la vecchia, Giulio si diverte a uccidere. Ma la vecchia possono anche uccidere questa maniera. Magari riescono a prendere tempo finché noi non raggiungiamo il tempio. Beh, comunque la peggio non diciamo... Magari... Possiamo liberare Irina, questa la vendiamo un altro. Non è così grande. Cioè noi da qui a qui ci abbiamo messo poche ore. Quindi magari troviamo il tempo in una giornata, che ne sai? Posto probabile, guarda. Magari troviamo qualcuno che sa qualcosa, ci dà una direzione, lo troviamo al massimo due giornate. O magari io evoco dei gufi giganti, li faccio per lo stare per un'ora in volo e dico... Contestrato, conosce il tempio. Ora li dobbiamo... Mi sembra un'ottima soluzione. Ci potrebbe dire dov'è, così noi andiamo ed evitiamo che i nostri compagni ci vadano. Magari trovano... Ci potrebbe portare in volo. Potrebbe. Allora, o ci vendono, però ve lo dovete meritare. La cosa più probabile è che ci vendono, o prendono tempo. La cosa più probabile è che ci vendono la diciamo la cosa la fiducia nei cavalli compagni. Morti. No, prenderanno tempo al massimo, non si faranno uccidere. In ogni caso noi li consideriamo, cioè non possiamo stare a aspettarli, certo. Io non sapevo. Vedi che fiducia. Ma se io dopo tre giorni arriviamo là e loro non ci hanno aspettato. Io non ci ad andare. Con te sì. Non sappiamo dove sono i nostri compagni. Non sappiamo che si sono fermati. Va bene, avete visto il tredicesimo episodio di Pietro, la maledizione di Katta. E split the party. Esatto. Divisione del party, il nobile sacrificio di Koglionovic. Addio Koglionovic. Ma ti ho sbagliato parte del party. Sì. Oh, viva strada. È tardi, forza strada. Ormai è tardi. C'è troppa luce dentro sto party. Certo. Gli ho scritto anche Irina con loro. Sì. Il chierico ha detto cosa? Il male? Sì, sono per lui. E va bene. E vi diamo appuntamento ai prossimi episodi con Tycoon and Dragons, la maledizione di Katta. E grazie per averci seguito. Yes. Ciao, 13. Ciao.